intorno a me, cioè stanno tipo tutti Vai. sparando. Ah, C'è va bene. Parcheggiato, quindi è un bersaglio facile. Allora, a velocità zero, perfetto. Benvenuti. Non so se ero parcheggiato, io mi ricordo che ero rimasto. Oggi è lo Star Wars Day. Ormai si sta detto che e a cosa potremmo giocare? Se non, ovviamente, a Urban Heroes. A petrolieri spaziali. Star Wars Gay? Ok, prima che Arci ci faccia chiudere il qualunque cosa, facciamo qua la sigla. Tax con si vede, ma se tu fai così, da. Aspetti, sì, sì. Ma non mi si vede a me. È una luna. No, no, beh, questo è semplicemente per la canzone. Vuole essere visto lui. Ah, sì, è vero. Lo so, ma lui ci ha messo tipo i dadi. E vediamo solo i dadi. Genio, vediamo solo i dadi. Va bene. Per portare la mia miniatura di libertà. Ci sto. Si vede molto, no? Se lo metto qua, sì. Oh, questo sì che è speciale. Peccato che voi non abbiate una. No, noi abbiamo un Y-Wing che è molto meglio. No, come no? Sì. Sta dritto, Dio buono. E che la cultura sia con voi, lui di ben pensanti. E con le usi. Va bene. Siete in diretta, siamo in diretta e sia su Facebook sia sul podcast. Sul podcast non siamo in diretta, ma insomma siamo sul podcast con il 23esimo episodio di Petrolieri Spaziali, che ovviamente per l'occasione non può che chiamarsi Mayday. E in trasmissione con me Andrea Giacomo Vecchi c'è Francesco Arcidiacono, il master Giulio Bosi, Enrico Cattabriga, il nostro giornalista inviato e Stefano che cazzo e Stefano Gamberoni e questo è Fumble ops c'è Edoardo Salladini che adesso ingrandiremo in qualche modo. Basterebbe far sparire i dadi. Vabbè, stacco i dadi, dai, vabbè. Sì, a prescindere comunque va così. Va bene, e l'ultima sessione è stata molto tempo fa, c'è stata una sessione che era il 22esimo e poi c'è stata un'altra, 22B, esatto, che avete sentito forse solo in podcast e non avete fatto la diretta. Che bella sessione, tutte quelle mariscine. Molto male. E ho capito il tuo personaggio vuol morire. Volevano sponsorizzarci, ma hanno visto che non avete fatto la diretta del 22B e hanno storto. Volevano sponsorizzarci, ma il loro personaggio preferito era il Broide, che non c'è mai. Prima di partire col riassunto, eccetera, vi ricordiamo che siamo. Ci potete trovare su. Cos'è quello schifo? Ci potete trovare su Tycoons and Dragons su Facebook. Perché c'è dei problemi. Sul blog ripgdr.wordpress.com e sul podcast che è sempre RIPGDR. E volevamo ringraziare gli amici di Tinat Games per aver dato corda al nostro catta alla Gilda di Bologna. Si sono incontrati, hanno fatto una piacevole. Sono i creatori di Urban Heroes e di Dungeon Digger. Erano a fare una presentazione di Dungeon Digger alla Gilda al Castello di Bologna. E il nostro. Al Castello. E il nostro Enrico Cattabriga li ha incontrati e hanno fatto un simpatico video con molto rumore di fondo, ma comunque li ha incontrati, era lì per suo malissimo Arci comunque. E sì, no, tra l'altro vabbè, ringraziamo comunque la Gilda e il Castro per averci diciamo anche citato. E loro forse non sanno che noi siamo penso peggiori in questo senso, siamo proprio il meno politically correct possibile, ma grazie comunque per averci citato. E poi ringraziamo anche Fumble per averci citato nel loro video YouTube su Dungeon Digger. Com'è quel gioco, ma la gente è la stessa, quindi... Sì, esatto, la gente è la stessa, vabbè, di un po' di tempo fa, ma insomma comunque l'abbiamo visto adesso, quindi bella. E detto questo, possiamo partire con il riassunto che lo fa il giocatore più presente di tutti, cioè Sci1-3. Allora... La parte finale, diciamo così, della 22B. Della 22, no, io pensavo passasse. No, vabbè, la 22 ma c'ero. Vedete che non ci sono mai. Sì, è vero, qualcosa non ne sappiamo. E dopo aver raggiunto, vabbè, dico la parte finale, facciamo prima. La sala di controllo. Ma fammi il riassunto del Signore degli Anelli. Un mezz'uomo butta un anello nelle cose. Riassunto è il potere della sintesi. vabbè, allora fallo tu. Ma no, non me lo vedete, mi devo fare così. Intanto vieni nell'immagine, ecco. Abbiamo raggiunto. Fai cadere un po' di cose. Non mi sono. Va bene, dai, fa lo stesso. Ora non ricordo assolutamente i nomi del pianeta, di dove eravamo e tutto il resto. Questo assolutamente non me lo ricordo, quindi questo mi aiutate, ditemi dove eravamo, così diciamo i nomi. Kashyyyk. Ok. Eravamo gli Wookiee. Esatto, eravamo atterrati su Kashyyyk. L'ex pianeta degli Wookiee. Il nostro obiettivo era la tomba degli Wookiee. Era raccogliere i dati, giusto? No, decisamente no. Era come si accoppiano questi uomini? Documentario. Osservare come mangiano. Allora, no, era. Noi siamo lì perché praticamente ci aveva dato una missione. Non mi ricordo come cazzo si chiamava, però. Tron. Sì, grande ammiraglio. Ha detto andate nello spazio ribelli. No, dici cosa dobbiamo fare. Dici cosa dobbiamo fare. Va bene. Vabbè, ho capito, Giulio. Cioè, nel senso, ci sta. Comunque va nello spazio ribelle, aspetta. Ma vabbè, in giro fa casino. Random. Emblema. Vabbè. Noi siamo andati prima su Trandosha a parlare con i Trandoshan, che però sono dei stupidi cazzo di lucertoloni, e per convincerli ad attaccare Kashyyyk, che non gli avremmo dato una mano. Siamo riusciti con un capo che si chiama Shkishk, uno dei capi, a coordinare una sorta di attacco in cui noi praticamente facciamo tutto e loro arrivano e vincono. Esatto. Noi siamo andati su Kashyyyk e siamo arrivati a questa base appunto dei ribelli poi della Repubblica, credo, però è una sorta di una roba un po' mista. E praticamente loro ci hanno accolto a braccia aperte, cioè proprio hanno detto: ragazzi, vi stavamo aspettando, per fortuna che siete arrivati. Praticamente ci hanno sputato in faccia appena ci hanno visto. E diciamo che gli omicidi di Salla durante i corridoi hanno stimolato una reazione. Diciamo che uno aveva preso in simpatia in molto. Allora, diciamo che io non volevo ucciderlo. Diciamo che è morto. Allora, diciamo che se avevamo dei dubbi un po' morali inizialmente su fare questa azione, quando abbiamo conosciuto Kyle, che è tipo il capo della base, e i suoi scagnozzi, abbiamo capito che in realtà era la cosa più giusta da fare per la galassia. Cioè, era proprio la cosa, cioè eravamo proprio nella parte del bene. Tant'è che credo che Salla abbia ottenuto subito tipo non so quanti punti Jedi. E praticamente, sì, uno dei loro era una specie di calamaro, anche lui, che però è morto. Non si sa come. Per cause naturali, non mi ricordo. Comunque ha smesso di respirare. Era fuori dall'acqua. Diciamo, vabbè, la morte naturale, capito? Un infartino. Fucile. Vabbè, dopo aver fatto un po' di conoscenza, averli più o meno ingannati. Sì, comunque un arresto cardiaco. Siamo andati verso la sala. Praticamente l'ha ucciso Vez. Praticamente io gli ho semplicemente. L'ha schittato. Beh, l'hai visto che soffriva. Io semplicemente l'ho visto fuori dall'acqua. Ho detto: cazzo, non c'è una puzza vicina. E quindi. Però faccio notare che il primo a tirare una spadata laser a caso sei stato tu, Sì, ma era di avvertimento, hai capito? Non sarebbe morto. Era una Infatti, ma è la classica spadata. Tu giustamente l'hai avvertito e lui ha capito benissimo ed è scappato. No, ha ragione, è come Obi-Wan, no? Che fa la spadata laser di avvertimento. Solo che io non volevo che si stancasse con la corsa, cioè non mi sembrava giusto. Mozza e quindi il braccio del... sì. Vabbè, dopodiché abbiamo assaltato la parte della base centrale perché volevamo mandare il messaggio ai Tannosian di partire con l'invasione mentre noi facevamo un casino. Ci avevano lasciato la chiavetta, se ricordo bene. Sì, siamo riusciti a mandare il segnale, abbiamo ucciso un po' di gente, solo che poi è successo un po' di casino, nel senso che la nave, la nostra... Tu hai pilotato... Tu, ovviamente, allora, siamo il precedente eri spento, come... Vabbè, vi ho raggiunto con la nave principale e mi sono messo all'altezza delle finestre per potervi, dopo aver mandato il segnale, farvi uscire sulla nave. Esatto. Lo avete fatto in tre, mentre Arci e Salla, o meglio, Idogon e Zoln, hanno deciso di rimanere a terra. No, hanno deciso di scendere. Sì, di rimanere lì, cioè rimanere nella sala controllo. Sì, non sono saliti sulla nave. No, uno era salito. Sì, vabbè, salito ed è ritornato giù in maniera molto acrobatica. Però sì, noi tre invece siamo rimasti su. Poi, ma non saremmo dei grandi giocatori di ruolo se non facessimo queste cose. Nel frattempo abbiamo notato, se ricordo bene, già lì abbiamo notato un caccia che si allontanava, giusto? Sì, perché uno... Sì, ha sparato la nave, cioè c'è la mezza sparacchiata. Poi è andato via, però. No? No, perché dopo sono messi a fare gli scontri con un bagaglio e lui c'ha una cosa... Che se anche pure... il master dice così, stiamo fottuti. Sì, in effetti sul bagaglio ho avuto un attimo di... C'era un bagaglio! Il nostro capitano, Mario. Okay. Sì. Sì, no, è allora, il bagaglio capitano che... Bagaglio. Capitano bagaglio. Bagaglio! Ah, ok, capitano bagaglio, perfetto. Capitano. Okay. Ma è tu, ok. Lui che ha una cosa che... Per tot turni, stavi dicendo? Non puoi, il nemico non ti può colpire. Ah, okay. Ha fatto una manovra evasiva particolarmente figa. Vabbè, non ce la fa, dai. E quindi il caccia poi si è allontanato dopo che vi ha praticamente sbrindellati. Ok. E poi tu ti sei posato e loro sono usciti col caccia. Okay. La nave è impossibilitata a continuare? La nave madre, chiamiamola così. No, la nave può andare. Non mi ricordo. Cioè, i danni come non sono la Navabo Donoso? Abbiamo... Chi ha segnato questi punti qua? 25 direi. Ho una domanda per voi. Che modello è la nostra nave, quella grossa? È un TIE Fighter, no? Cos'è? No, Wayfarer. Una fregata, meglio. Ma cosa vuoi sapere? Quanto è grande? Come è fatta? Quanto è grande? È una nave cargo, è un blocco con una sorta di hangar che esce. Ok. Se ti può parlare delle piccole? No. Boh, 25 mi sembra. Mi sembrano tanti 25 per tutte le volte che ci aveva attaccato. No, in effetti 32 sì. Non avresti subito che stanno scadendo. Veramente strano. Beh, no, ci sta invece. Ha beccato anche su RPGDR. Secondo me. Ora puoi vedere. Scusa, non è 25 in diretta anche da lì. Ah sì sì, 25 su 32, è stato più inserito. Ah, perché voi cercate il contrario. Ah no, ok, allora va bene. Una critico, volta, gravità... Ho capito prima io di te, questa è bella serie. No, difesa... Perché qua vedo segni... Ma ti beccato solo un critico? Esatto. No, come? Comunque la nave principale ha subito 25 danni su un totale subito non è messo 32, bene. Quindi è messo piuttosto male, ma c'è qualcuno su che potrebbe aggiustare. Non lo so, in questo momento mi sa che la situazione è che tu sei sulla nave grande, noi, io e Scatta abbiamo preso il caccia e avete inseguito io, Kurto Scatch, con il mio prode capitano Maro, abbiamo preso il caccia, il... la babbo volante. Non gli abbiamo dato un nome? No, bisogna. Uno che spara. Y-Wing. Nome per il caccia? Importante. Y-Wing. No. No, ce l'avete scritto. No, lui diceva il nome di battaglia, capito? Ce l'avete scritto. No, se c'è lì. Tipo Caccolo 1. Ozokarag. No, Ozokarag era la nave che avevamo preso, ma poi ci avete fatto dar via. Cattivi. Una... Non do più un nome alle navi, visto che qua, dopo le do un nome a una nave, me la date via. Una Luri qualcosa. Avevate fatto anche la scheda. Il ben pensante volante. Il ben pensante. Il ben volante. Bello, è un po' lungo. No, no, il no, PV. No. Il PV. Scusa, anche la M. Ben pensante mercificato volante. BMW. Questo è buono. Brevettalo. Scriviamo, scrivi. Oh mio Dio, il BMW. BM Wing. No, BM è una V normale, volante. Really. Va bene, allora. Queste sono le cose più importanti. Quindi io e Kat abbiamo preso loro per andare, diciamo, a cercare questa aviatrice che si chiama Zal. E anche lei era molto simpatica. Mi dicono che il video va a scatti. Sì, il video va a scatti. Dovremmo togliere Skype perché purtroppo non c'è una grande, cioè non c'è molta soluzione a questo perché è il computer che fa merda. Ma non infatti stavo che... scrivendo è quella melma, è quel poraccio di Vez che no secondo me invece no perché io ho guardato la registrazione che avevo fatto di prova e senza Skype non laggava, cioè non scattava. Chiediamo gentilmente, quindi secondo me è la tecnologia di Hobbs per il Mac e funziona così. Poi io non lo so, magari non ho una connessione abbastanza potente, però chiediamo a quelli di Fumble se ci possono fornire l'attrezzatura adeguata. No, Fumble la concorrenza, no, scherzo. Tra amici, no, ma non penso. Cioè, il mio computer ha tanti difetti, ma non credo che questo sia colpa del mio computer, tanto più della tecnologia di Hobbs. Uno in più, uno in meno, metticelo. Dai. Ma stiamo già no, se io ti tolgo, non scatta più, però non ci sei più. No, nel senso, magari non stare a Marsiglia, magari cosa? Cambia lavoro. Cazzo di scorsa. Non è quello perché io ho fatto delle prove e, vabbè, quando non c'era Skype non scattava. Quindi, mi chiamo per telefono, quindi la prossima. Hai la videochiamata WhatsApp. Dobbiamo usare due computer, uno per... ma non cambierebbe, perché per averlo nell'immagine lì, capito? È questa cosa qua, questa finestrella qua che gli prende scatta. Tagliamo sala, sì. Ah, se tolgo Salla non scatta sicuramente, però non c'è. Vabbè, ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie, è stato carino. Dai, l'exp la prendi. Vabbè, quale exp? Vabbè, ci ho provato. Va bene, okay, ora direi che innanzitutto potresti... No, adesso scopriamo che cazzo è successo agli altri, perché noi siamo rimasti lì, ma poi c'è stata quella sessione, diciamo, quindi in camuffa. No, ma ci sta, è GDR, non lo sapete, e quindi state volando verso il coso. No, vabbè, noi avremmo rimane che... Avremmo guardare la diretta, ma non l'avete fatto. Noi potevamo ascoltare il podcast, però. Noi rimaniamo che non lo sappiamo, ma voi... Ditelo a quei pochi che ci ascoltano, barra che ci guardano. Ve lo riassumeremo quando vi incontreremo. Okay, dai. Magari moriamo. Allora continueremo noi. Allora. Vabbè. Quindi la situazione è che io sono a terra con la nave danneggiata. Sì, però sono solo, cioè non sono circondato da altri. No, c'è l'altro droide che avevamo preso. Sì, ma la rottame. In questo preciso momento perché è stato colpito, però siamo riusciti a ricaricare. Quindi la situazione interessante ora che seguiremo è molto da un Wookiee grosso. L'inseguimento del ben pensante mercificato volante. No, tu comunque sei BMW. Più o meno dalla spiaggia, per il BMW. E ci sono i cannoni antinave che stanno attivando. Non li ha distrutti loro. Ah, non è una cosa contemporanea, cioè voi, loro sono appena scesi e Salla, mentre voi fate tu magari non hai capito, però cioè, prendiamo il, te lo dico, seguimento, loro sono scesi Salla, mentre loro arrivano dalla torre, sì, con tutto quello che hanno fatto la volta scorsa, e questi cannoni sparano, ma la nave è nella loro base, il cannone spara, tu magari non hai capito base. Salla, ma noi prendiamo il BMW, il W. BMW. Mi ha tirato dato bianco? No, non so come sono fatti questi cannoni. Posso sì, è vero. Che... si fa inizio sessione. Bravo, anzi, che ti ricordi le regole. Io sto giusto per prendere le regole. Non so, cosa facciamo qualcosa anche noi, Salla, un pochino. Dai, è vero, tiriamo i dadi bianchi. Tiriamo quelli verdi. Sì, la gioia. Vai. Due bianchi. Oh! più uno in omaggio, visto che sono gemme. Tre dadi bianchi, vero? Era una game. Non so mai quando sono regole vere o quando se le inventa. Non si sa. Neanche lui lo sa. Neanche lui lo sa. Anche l'ultima volta, non è? Ha preso uno sbantello di punti lato scuro. Oh, avete fatto cose da Jedi, insomma. L'ultima volta che ho finito cose. No, in realtà ne ho presi pochi, come al solito. È Arci che ha fatto una strage. Sono 77. Ho tirato 10. Un nero, no. E tu un altro nero. C'è questo. Se questo ne avessi stati 10 di... Tre neri e tre bianchi. Manca anche la Sal. Vai, Sallino, vai. Se volete rimetto i dadi, se no baro. Sì, sì, rimetti sì, pure. Vai. Aspetta che ti ingrandisco. Aspetta, però. Vabbè, non importa. Aspetta. No. Cos'è questo rumore? Non c'è più acqua, mio signore. Questo te la porto. Non l'ho capito questa cosa. Che cazzo stai facendo? Non so, sento dei rumori strani, sei tu. Boh, vai. Ora forse qualcosa si vede. Dobbiamo stare con i grilli. Uno nero, 4 e 3. Che bello, sa. Ma l'abbiamo fatto noi, quindi... Uno nero omaggio per come uno bianco. Hai visto? No, purtroppo Salla, nonostante lui vorrebbe, non è così giù. Ah, ok. In moralità. Avete visto applicazione? Come si chiama? Dice Roller. Dice Roller creata da. Potrebbe farla per. Da Jacopo. No, però ne abbiamo una per Windows. E solo che penso che l'abbia messa a pagamento quel maiale. Salutiamo Jacopo. No, non è stato Jacopo, è stato quella merda che gli ha rubato il codice. Chi è che gli ha rubato il codice? Gava. Ah. Chi è? È il suo coinquilino. Coinquilino di Jacopo. Quindi? Poi c'è la telecamera. Sara, l'hai visto i Guardiani della Galassia 2? Come cazzo l'ho visto? In francese? No. Le Guardiani non l'hai visto? Della... Io sono tornato oggi, ero in Belgio fino a stamattina. Guardiani della baguette. Io ero in Belgio fino a stamattina. In Belgio non hanno i cinema. Sì, ma non ho il tempo materiale di andare. Ma potevi anche scegliere o francese o fiammingo. Sì, ho che scandalo. Vabbè, subito con questo off topic. Allora, dobbiamo tirare anche la percentuale, la devi tirare tu? No, quella non mi importa oggi. Cosa vuol dire non importa? Anche la trota non abbiamo fatto tirare. Cioè, ormai abbiamo annullato quella regola. No, in teoria... se il master valuta che la sessione sia abbastanza dura, impegnativa, non importa che, cioè, voi siete in mezzo a un combattimento, non è che vi viene il pensiero, ah, oh, oddio, abbiamo una taglia sulla testa da Timo De Up. Beh, insomma, tecnicamente, sai, io Salo stiamo fumandoci una paglia giù in mezzo alle macerie. No, adesso state ancora correndo. Sì, ma sappiamo già che c'è in mezzo alle macerie. Sì, sappiamo già che fumeremo la paglia. Quando vuoi, Salla, puoi tornare in modalità persona. Persona? Oddio. Salla, ammazza quel picchio che è in camera tua. Ma non so che cazzo sia, penso sia un problema del microfono. Del microonde. E quando cambi da dadi a non dadi, che lo fa, comunque. Adesso lo fa? No, ora siamo a posto. Allora fanculo. Sei calmo. Va bene. quindi la tua nave è ferma e la vostra è partita. Io alle sta punta di merda. Non è ostile, cerco di capire cosa posso fare per marginare i danni in modo veloce. No, facciamo così, tiratemi iniziativa. Ovviamente non è tipo combattimenti navali, però secondo me se il droide si mette Vigilance. Incrociato davanti... Vigilance? Mi piace vantaggio. Bravo. Il vascello è parcheggiato. Bella scelta, Vigilance. Cio è parcheggiato, non c'è. Cio sta guidando quella grossa. Non è possibile. Un successo, no, è parcheggiato in un cazzo di cosa, Cio. Mi sperate, ragazzi. Aspetta che... Ah, no. Tu dati. Ora come ora, Kyle è ancora... Devo tirare questo. Cosa hai fatto? come Kai un successo e tre vantaggi in questo preciso momento anche lì. Sì, ma comunque sta come un da successo e due vantaggi sì, basta. Però ancora vivo. Ah, quindi hai fatto un successo e due vantaggi tu, cazzo. Sì, devo tirare quel gel. Ah, okay. Che era meglio comunque. Vabbè, spoiler, Kyle è morto. E anche male. Sì, e anche il pianeta. No, pianeta non è verità. Nei campi di Kashyyyk, Kyle è morto. Qualcuno ha fatto meno di due successi. Un successo e un vantaggio, un successo e due vantaggi, un successo e tre vantaggi. Scrivi, Archie. Perfetto, sta prima il nemico. Scrivi. Due fa... Ma quindi non c'è un altro droide nella nave? No, Salla, quando è che torni nella giusta patria tu? No, droide, giusto? Perché tutti i droidi... 5 maggio? Ma che 5 questo maggio? Tornerò a luglio, agosto. Ah, posso. Chi è il primo? Ah, è vero, che c'è il gioco. Che cosa ha fatto? Va bene. Vabbè, io posso dire, semplicemente mi metto a vedere se posso... Ce lo si mette in modalità aereo. Marginare i danni in maniera veloce, cioè non voglio fare una procedura lenta. Se vedo che i danni sono troppi e non mi metto a far niente, se vedo che c'è qualcosa okay, che potete ripagnare in maniera piuttosto veloce. Per oggi domenica va bene, allora mi fai un test mechanics. Allora io minchia il damage control. Ah, Sal, hai visto nuove modifiche di LOL? Aspetta, in realtà hanno fatto dei bordelli disumani. In realtà allora ieri volevo giocare ma la connessione faceva schifo, quindi fondamentalmente ho aspettato una partita degli altri e hanno succhiato male, ci sono delle robe strane degli oggetti e non ho ben capito. Vuoi cercare di riparare i danni in generale o di riparare il danno critico? La differenza in termini sia di gioco che non. Il danno critico o il danno critico togli il danno critico, i danni generali è un ma cosa mi conviene? Nel senso però... il danno critico in questo momento avete gli scudi deflettori che non vanno tanto bene, quindi avete meno uno alla difesa e l'altro sono i danni gli altri avete stati faccio i danni in generale idrovora in realtà alla metà che è dove ce li hanno, ce l'avevano così per cui è giusto a metà, già, però non è la metà. Vabbè, comunque Sheo sei stato a studiare il manuale 6 ore due di ore solo. E questo te ne fa bere di meno o no? Allora un trionfo, due successi e tre vantaggi ne fa bere di meno. No, okay. Peccato che essendo solo un trionfo e due successi, un trionfo e due successi, ok, recuperato tre punti. Infatti io prendo le lattine, vezzino. Di scafo? Sì, beh, vabbè, sì. Tieno. E vabbè, facciamo che... Cioè, mi ha poco, ho tolto il danno critico e ho guadagnato dei punti. Bravo, Sheo. Era di gravità 2 va a gravità 1 o se toglie 2? No, anche il picchio immagino di sangue. Che il mio turno finisca qua. Esatto. Okay. Io non so che cazzo sia. Ma lo senti tu? Sì, lo sento, ma non so che cazzo sia. Secondo me ti poi è appollaiato dietro. Non so, sì, volendo hai una manovra, però devi tornare alla cabina di pilotaggio. Sicuramente al microfono. Vabbè, torno lì e vedo. Okay, non so, mi preparo per eventualmente decollare se serve. E niente. Torno per salire dove si trova. Ogni tanto fai degli aggiornamenti anche di quello che succede giù, così io capisco dove siamo io e Salla. Okay. Cioè, in proporzione all'orazione. Sì, tanto l'esplosione la sentono, direi. Ah no, per sapere... Quando Arci fa saltare in aria tutto. Porta. Fammi un test di Perception. Per vedere dov'è. Perception. Inception. Fammi un tour di Inception. Un grado. Quindi un giallo e un verde. Difficoltà... Due vantaggi. Merda, catta. Tirando due gomme avresti fatto di più. Sì. Forse volevi dire due portamine. Difficoltà 2. Difficoltà 2. Aspetta, non togliere i danni. Beh, non due vantaggi. Minchia, fallimenti. Un vantaggio. No, è un vantaggio. Sì. In che prova, scusami? No, in Perception. Per vedere se vedi il nemico. Sai degli strain, puoi recuperare uno strain. Sì. Volentieri. Sì, i miei 8 lo farei. La cinematica di questa azione è Katta che prende due cose d'acqua e se li getta negli occhi. È Katta che c'è. Io non ci vedo. Che prende un binocolo e lo gira al contrario. La velocità della nave. Che bella immagine col casco noi siamo sul caccia, vero? Noi siamo tutto buio, è tutto buio. Nel dubbio che non vedo un cazzo, aumenta la velocità della nave. Vabbè, tanto ha sparato nessuno, non è che sono sì, gli alberi in mezzo. Domanda, chi non pilota non può fare un cazzo. Sì, no, chi non pilota può fare un'azione. Dai, Beth. Puoi sparare, magari lo becchi. Una domanda, scusami, noi non avevamo il problema che dovevamo passare dalle torrette che ci sparavano? No, avevamo... Eravamo partiti la volta scorsa, no, me lo ricordo. Ok, allora hai... A che velocità massima hai il vostro caccia? Speed 4, questa qua. Ok, tu adesso sei passato a velocità 3 a 4. Prima era la velocità 3 per partire, hai accelerato bruscamente. Okay. E quindi avete 3 punti di strain. Okay. Quindi io posso provare a recuperare lo strain? Beh, tu potresti provare a vedere se vedi un nemico. Tu devi sparare, pezzo. Sì, io devo sparare, ma il nemico si vede? No, ancora. Carta non l'ha visto. Perception. Sì, ma carta, come ha detto Salla, ha il casco. Perception è un'azione, no? Sì. Ah, quindi perdo la mia azione se faccio per sé, però di fatto se non lo vediamo. Tra l'altro dici giustamente posso sparare a raggi, magari non ci passa. Quello che dicevo, secondo me era un... Tanto Kata sta guidando così male che ma tipo nella base. Non lo vedo perché non c'è. No, ma vabbè. Non c'è la scan, lo posso fare solo se lo vedo, Facciamo... Cioè, infatti, scusami, ma Perception cioè, guardano fuori se lo vedono? Guardano il computer della nave. Cosa. No, chiedevo, ero curioso se c'era un altro tiro per usare gli strumenti per percepire. La nave non ha uno scanner. Vabbè, provo sto Perception, dai, su. Allora, questo... peggio di carta non puoi fare. Cosa ha fatto? Volante. Difficoltà? Due. Ha fatto due vantaggi con un dado giallo e uno verde. Vabbè. Ti tiro il risultato. A parte che io non mi ricordo un cazzo del mio personaggio. Spara ai compagni. No, io sono robe per uccidere. I compagni. Bene. Per uccidere me. No, no, ok. E lui si sfoga così sui PNG buoni. Oh, questo è un tiro. No. Questo è... Non so questo se... buttalo via. Non so se è un, non è un successo. No, però è un trionfo. Così allora, un vantaggio. Scusami, tre vantaggi. Sono tre vantaggi e un trionfo. Esatto, niente successo però. Cioè, quindi in questo caso non è riuscita l'azione, però ha qualcosa di positivo. Giusto? Sì. Che vediamo il nemico, però. No, non lo vedo, però c'è un trionfo. Noi abbiamo già passato le torrette, giusto? Che una è esplosa. Vedi una valigetta con 7000 crediti che passa in mezzo allo spazio. In realtà vedi tipo una torretta che sta volando e si sta schiantando. Oddio, il trionfo potrebbe essere che il penalizza il suo tiro. Sì, vabbè, adesso cioè, quello posso usare i vantaggi. Altrimenti non so, è possibile intercettare. Io potrei esatto, vorrei fare due tipo do la possibilità a Sheo di intercettare le sue comunicazioni di questa, oppure per qualche motivo una tra le comunicazioni e lo scanner della tizia salta. Ok, saltano le comunicazioni della tizia. Quindi non può più comunicare, però l'aveva già probabilmente già fatto. Vabbè. Però, e i vantaggi non so se li posso usare in qualche modo. Magari un vantaggio, un boost al prossimo tiro di Perception, immagino. Sì, puoi darti dei vantaggi nel prossimo tiro. Nemico. E niente, non posso fare nient'altro. Sta nemico. Chi mi sfonda? Che nonostante la vostra acuta vista è davanti a voi. Passa un altro turno. Ok. Io... A dire, perché le comunicazioni non funzionano? Però posso provare con gli strumenti della nave a cercarla io. Tanto abbiamo il coso. Non sai perché è già tutta terra? Sì. Vabbè, gli strumenti della nave funzionano anche da terra, immagino. I radar, quelle cose lì. Che range funziona. Vabbè, posso tentare, male non fa. Sì. Ma è che la nostra è una Subaru modello SUV. Non so come funziona esattamente, però... C'è Sheo con tipo il tergicristallo. Vabbè, cioè, ha il bastone di legno, presente. A vedere dov'è. Chi cerca l'acqua? Gli strumenti, posso, non so cosa uso, computers o perception? Computers. Difficoltà? Sempre due. Anzi, no. Ok, sei da terra, astuto. Allora, questo vanno via. Questo vanno via. Due successi e un vantaggio. Perché qua se ci sono io. Ma cosa vuoi fare da terra? Quasi adesso cosa fai? Piloti la nave e la porti alla rovina? No, l'ho cercata io con gli strumenti della nave. In teoria sono più potenti gli strumenti del cazzo. Però sei pronta. Cioè, non lo so, dipende da che direzione è andata. No, sono più potenti cosa, scusa? In teoria, domanda mia, gli strumenti di questa nave che sono più potenti del cazzo. Soprattutto in un cazzo. Comunque, due successi e un vantaggio. Okay. Gli scanner della nave la individuano e poi comunicare la posizione, sapete dov'è, più o meno, anzi è range lungo. Ok, domanda, la nave è accesa ancora o l'ho dovuta spegnere per riparare? La nave è accesa, non è che... Ok, però è acceso il motore, solo non è devo avviarla. Perché cioè, a meno che tu non ti sia parcheggiato. Sì, basso. No, parcheggiato. No, ok. E non posso fare altro. Mi hai sentito quindi? È una manovra. Poi, però sai a velocità zero, puoi farla a velocità 1. Domanda, da me quanto dista un'eternità? E poi non ho... Da te pari. E poi come velocità... terra devi... E poi so che come velocità non li raggiunge. Poi, giusto? Allora rimango da solo. Aspetta però, ultima cosa. Le torrette quanto sono lontane da me? E quante le sono? Le torrette erano... mi fa un chilometro, un po'. Non sapete quante sono, 4, 5, non so. Per ora non sembrano stili verso di me. Per due turni non hanno sparato. Questo. Allora rimango assolutamente dove sono. Anzi, spengo i fari che... Smetti a disturbare. Ok, passo il turno. Voi che adesso sapete dov'è. Ok. Ah, devi allora comunicare, grazie intanto. Grazie. C1. Bene. Quindi l'ha trovata? Sì, sapete dov'è. Quindi noi adesso a che velocità stiamo andando? 4, al massimo velocità 4. Quindi quello che scritto salla. Quindi a velocità 4. Al cazzo le piace questo elemento. Ah, qua, ce l'ho qua. Non lo posso, ce l'hai? Cos'è questo disegnino che hai mandato? È quello che sto facendo adesso. Close. Da cosa short, però con due. Dove si trovano i petrolieri spaziali? Sì, da cosa, ma che cos'è sta? Però è longe, quindi vai da longe a... inizio sessione con due manovre, vai da longe a short. Ok, posso quindi andare, puoi scegliere da, con perché forse è long, ma è ancora nell'atmosfera del pianeta, no? Sì, ci voglio, perché con due manovre, esatto, due manovre, perché ci vogliono due manovre per andare da close a medium, quindi per andare da long a short su scali di uno. Ma perché è close, short, medium e long? Ah, non è che una manovra passi di range. Ci sono dei range che ci vogliono più manovre, appunto. Questo c'è un secondo. Ah, ho capito. Cioè, da close a medium non è uguale a short. Esatto. Ho capito cosa intendo. Quindi, forse per due manovre vai solo da long a medium. Sì, è quello che penso anche io. Probabile, sì, ha senso. Sì. Long. Ma il range delle armi quant'è? C'è anche lì short, medium, long. Però sono altre, sono altre dimensioni. Mm. Ah, delle nostre. Dovresti, non so se c'è scritto lì. C'è scritto? Close. Se no, guarda close. La descrizione. Solo della... close. Ah, no, abbiamo uno short. Però close. Noi abbiamo due armi. Quello... due armi. Insomma, qua sono tre. Perché abbiamo la torretta. Scusami, posso. Possiamo, guardiamo, nome. Guardiamo da. No, c'è quelli che ho scritto. Aspetta, qua. Forse ce l'ho anch'io. No, vabbè, ce li ha già scritto. Ce l'ho anche qua, se vuoi. Vabbè, no, no, ma per... vabbè, comunque ho short o close. Non due, c'è due manovre, amore. Ecco, quello che stiamo guardando noi. O da medium a close. Non parla di long. Cioè, solo da velocità più alta. Che long siano due manovre, ma non a medium. Age of Empire. Quindi due manovre per andare a medium. Ha senso. Quindi il tuo turno arrivi a medium. Sì. Tu le tiri sì, perché long sono tipo... C'è di più, sì, sì non sono, non sono tutte uguali, ma vanno in proporzione, c'è di più, capito? Close è qualche decina di metri, medium inizia a diventare centinaia di metri. Non anche chilometri, cioè... Anche chilometri, long... Centinaia di... Infatti no. Molte navi neanche sparano long, sono le navi vero. Capitali che hanno certo, dentro. Certo. Scusate. Quindi sta di nuovo a loro? No, sta a me. Sta a me. Io sono l'ultimo, come è possibile? Vabbè, no, no, sono semplicemente state approfittando. Ci sta. Quindi cosa vedo io? Lo vedo adesso o no? Cioè, so dov'è? Posso sì, sparare? Lo vedete dov'è? Lui ha raggiunto alla distanza medium. Siete e non abbia nessuna arma che lo raggiunga. Quindi, però. Ah. Vabbè, mettiti alla posizione di tiro. Comunque. No, vabbè, ma tanto io sono nell'abitacolo, quindi sono. Oh, vabbè, sì, è il cazzo. No, le scudo ti posso spostare. No, puoi aumentarli. C'è una spellazione per aumentarli. Come sì, era sì. Mezzescio. Allora, vedete che come avete capito questo? Boost Shields. Questa, sì, come avete capito, è la parte più bella del gioco. Allora, qua dice che... Vabbè, facciamo così. Così lo vedi anche tu. Farà questo, no? Mm-hmm. Mechanics. Fai un tiro di mechanics, però sì, difficile, con difficoltà 3. E... se hai un successo... Ho... Cioè... Il veicolo prende uno strain e aumenta le difese esatto. di una zona di difesa. Scusami, di ma invece tipo per il prossimo turno. Per recuperare invece il nostro strain non posso farlo? No, perché per recuperare lo strain di una nave o della nave, no? Dice proprio che non si possono usare i... è un palo nel culo. No, ma il trauma, ma secondo me lo strain può... Per rimanere in tema, Kat. Dire queste cose, Kat, che se okay. Ci seguono quelli della gilda... Sì. Allora è questo, aspetta, lo chiamo. Ah, aspetta, questo damage control. Vai. Per togliere dei danni, cioè per mitigare i danni che ha la nave, intende. Ah, sì, quello che abbiamo comunque qui. Sono tutte robe che io non so fare. Ditemi quella che preferisci. Beh, no, non è detto. Sì, beh, mechanics vero. Quanto hai tu? Intelletto quanto hai? 2. Punti ne hai? Ma ovviamente no. Vabbè, ti sembra un cazzo di meccanico. La difficoltà è 1. Non so. Vabbè, in realtà se i due dadi li fai viola, cioè nel senso ogni tiro è possibile, quello lì lo niente. Posso fare. Questo, beh, anche l'altro volendo. Se l'altro vuole. È difficile. Sono 4, eh. Sì, sono no, 3. Quindi, però forse è meglio questo. Sì. Ok, questa da cosa dipende? Damage control, da quanti ne hai già subiti, vedi? Se è meno della metà, allora fammi un test di quindi metà. Quindi della metà. Quindi cosa sto facendo? Cosa vuol dire che lo faccia? Per lo scudo o per il coso? No, questo per recuperare lo strain. Va bene, quindi dipende da... Adesso 10 ne abbiamo. Ah, allora sì, allora devi fare solo uno. Solo uno, mechanics con uno viola. Top, perfetto. Niente. Un insuccesso e due vantaggi. Sì. Però i vantaggi è recuperare il suo strain. Ma io potrei, ma cosa mi serve alla fine? Beh, se posso potrei recuperare uno strain e magari darmi un boost al prossimo tiro. Ok, se si accumula quello che ho già detto prima. Ah giusto, il boost che hai detto prima. Ah giusto, vabbè, usalo adesso, scusa. Tira due azzurri. In più? Sì. Si ribalta stasera, quindi un successo e un ulteriore vantaggio. Sì, quindi un successo e 3 vantaggi. Un successo vuol dire che quindi la nave, non so, recupera uno strain. Recupera uno strain, ok. Va bene. Ma ogni successo recupera uno, ok. Sì. Va bene. E uso uno dei vantaggi per recuperare uno strain invece. Okay. Allora, enemy. Che vediamo. Di tutto è che noi, dopo che sono stati buoni per due turni, hanno sparato. Adesso hanno sparato. Oh, e c'è un bersaglio immobile di Silhouette 5. Non capisco. Ma è scemo. Cioè, non capisco. Cazzo, scemo, non ti fermo. Cioè, non farci rompere da me. E soprattutto il droide. Ma è già rotto. Quindi. Come mi posso prendere? No, andrò in bagno. Donizio. Sì, è lì sotto. Starships. Beh, direi che dopo... Starmerd. Che poi deve essere tipo sarà Starship. Lì funziona anche meglio nella cosa. Ok, il budget si può usare solo per avvicinarsi a qualcuno per scappare, vero? Speriamo sarà la guardiana della grazia 2. No, tanto. Lui muore. Muore. No, non si dice. Non posso dire che muore Drax, sennò sarà dopo. Tanto non muore, è morto. No, no. Il guardiano della galassia. Guarda che silhouette 5, ma cioè, è magra comunque. Cioè, sì, è magrissimo. Si fa fatica. Cioè. Ah, beh, riparato. C'è un cameo di Thor. Sì. In quanto Einf sul fronte. Dove devo. Ah, è. Perché c'è scritto 2/1. È tra parentesi 1. Cosa vuol dire? Forse è 1 quando catta il comando è 2. Allora sì, te dai 1. Cioè questo è sì. Beh, però mi ha insegnato tutto. Quindi. Cos'è? No. Guardavo la diretta. Si vede bene. Scatteggia. Cazzo, qua vuol dire. L'immagine è buona, ma scatto. Questo vuol dire che è 1. Ma se la guida carta diventa 2, probabilmente. Sì. Okay. Adesso chiediamo a Katta che invece di pisciare magari è meglio che giochi. Okay. In mezzo a una sessione va a pisciare. No, che la prossima... Non dire queste cose, Katta, siamo in diretta con quelli della Gilda. Poi vengono fuori, dicevo, fuori il culo, questo, quello non tra parentesi se la guidi tu. Però tu mi hai insegnato tutto. Cioè tu sei il mio mentore in questo, quindi... Cioè il più uno vuol dire che se sono io prendo un più uno. Però siccome tu mi hai insegnato tutto, è come se ci fossi io, dici. Esatto, è chiaro. Oppure... E poi sto comunicando con te che mi dici come manovrarla, quindi. Quindi. Sì, c'è quello che funziona. Comunque la colpa è mia, l'ho incitato io, Arci. Ah, 2 successi e a 2 vantaggi. A fare ste battute. Ah, certo, ovvio. Bravo, Sarla, che hai riconosciuto le responsabilità. Ah, poi ho un comlink. Non dimentichiamo il login, spettacolo. Sono sotto che spettacolo. Sì. 11. Vabbè, anche si fa le seghe sul suo video. L'altra volta c'era un strato di Dios. Cosa? Ho detto guarda Vez che si fa le seghe sul suo video. Basta, per tu mi senti perché sono molto vicino al microfono. Eh sì, ma ti sentono tutti. Ti sentono tutti. E da buono, posso dire, è figo il logo del petrolieri spaziali messo perché... così. Oh, hai visto? E lo dice pianino, però avvicinandosi al microfono, tipo così. Avete visto Fez, tutti, ragazzi? Hai visto? Okay, hai visto cos'è successo? Hai visto il logo? Quanto cazzo è bello. Cioè, aspetta, riprova. Anzi no, sono solo 9 danni e un clip. 9 danni e un critico. L'impala che era da sala. Allora, 9 lo scrivo. E ignora 2 armature. Ma stanno sparando i cannoni, non la pizza. Ignora 2 armature. Perfetto, quindi abbiamo 4. Quindi ma togli la pizza dai cannoni. Quindi 7. Cioè, a meno che tu non te li voglia fare, togli la gittata dei cannoni. Basta, Vez! Hai capito che ci ascolta. Ma cosa vuol dire? La droga va bene. Non lo devo tirare. Non c'è un posto lo scritto. Non ho capito. Devi tirare, come funziona? Tira questi, guarda cosa c'è stato. Ah, giusto. Non mischiate i dati con quelli di Giulio. Quanto un tramo avete adesso? Adesso è più potente fare la cosa. 29 su 32. Sabato. Bravo, vabbè, posso andare a piedi. Tanto so che ci sarà 55. Poca gente. Perché la gente va prenotata per tempo. E ci sono. Vabbè, cosa? Sabato, non questo è il prossimo. E questo pochi, invece è Sushino. Meglio pochi ma grossi. Se vuoi. 55. Mi sembra mangiare. Sì, dai. Perché dopo cacciate ne volevamo andare. È quello di prima. Il risultato è critico meglio. Sabato, settimana. Un saluto al matrimonio. La riparazione che hai fatto agli scudi salta col colpo, quindi praticamente lo stesso danno critico. E quindi come lo segna? Quindi segna critico, gravità 2, meno uno di scudi. No, non deve essere elegante. Quindi costume di Chewbacca con la cravatta. Bellissimo. Canotta di Tag con Sandra. Posso dire con quello rimorchio sicuro, zero, però. Ti devo rimorchiare okay. Ai matrimoni si va per rimorchiare, vero Sceo? Come ai matrimoni si va per rimorchiare. Sì, però devi puntare quella vestita di bianco, sennò sì. Matrimoni si va perché si vuole bene allo sposo. Oppure chiudi il coso per mangiare. Taglia. Ok, va bene. La tizia invece fa una semplice manovra evasiva. Penso che farò questo. Sbagliato, gli tiro contro dei dadi viola. Penso che farò ma in queste due ore qualcuno ha sparato un colpo. Sì, hanno appena beccato la nave. Sì, è quasi distrutto la Babbo Donoso. Cioè, era lì che si stava facendo tipo delle seghe. Io ho trovato guardando tipo i circuiti su internet, tipo, oh, si guarda questo. Ho trovato nel frattempo io e Arci dove siamo? Ve lo diremo quando vi vedremo. Mi ha detto giù di fare gli aggiornamenti per Vez, non parlare vicino al microfono. Ancora, non avete ancora raggiunto. Io sono vicino al microfono. Non si sente Giulio. Allora non parlare. O lo metto dietro, rega. Ho fatto tipo 5 turni di corsa sfrenata per raggiungere la foresta. La foresta. Lo vado dietro. Te li ricordi, Salla, 5 turni di corsa sfrenata? No. Io mi ricordo un momento in cui ho ucciso il tipo. Massimo leggero Jordan. Io mi ricordo 5 turni di corsa leggera. Ah, dove abbiamo stuprato gli Wookiee. Poi sì. C'è stato lo scontro con gli Wookiee, poi c'è stata poi arrivato altra cosa. È arrivato Luke Skywalker, presente. Classico roleplaying. Sì. Vabbè, tanto ormai siamo cattivi. Ok, sta di nuovo a voi. Vai, allora. Abbiamo sperato gli Wookiee che li abbiamo tenuto di pronto. Sei un tag. Sceo, non abbiamo ucciso tutti, solo donne e bambini. Ah, bravo. È difficile. Perché i bambini sono piccoli, sono più difficili da colpire. Ah, sì, è vero, bravi. Quindi è più expo. Quindi Wookie abbiamo fatto perché un po' di anche le donne sono più gracciline, ancora quindi più piccole in generale. Dai, ci sta. E con due azioni arrivo a short. Quindi Wookie abbiamo fatto un po' pubblicitario. Prova un tronchi. La mia ecco. La cosa è stata devi agire. Sì, allora non vado in corpo a corpo. Cioè, sta andando a velocità 4 da medium a close con due manovre. Ti ricordi che ho fatto un tiro di merda e Giulio ha spiegato che il tronco ha tirato in verticale. Arrivi a close e lui spara. Sì, sì, ma chi tira via a chi? Noi abbiamo anche dei missili? Sì. Qua i torpedo. Sì, vado a prendere in mezza che sto lo fai, quindi vicino alle bombe termobariche. Rain short anche loro. È quello a cui siamo. Okay, vi siete avvicinati. È l'unico con cui possiamo sparare il torpedo. Se siamo short o close, blue. Scusa. Da close. Ah, siamo close. Allora, è un'ora e mezza che state facendo sta roba. Se sei un uomo sale a cavallo del missile come è il combattimento aereo funziona così. No, non è vero, abbiamo iniziato tardissimo, poi tra le altre cose. Vai, spara, pezzo. Con cosa sparo io però? Perché con quello con cui ti senti più confidente. E in teoria non è tipo uno di noi, ne è uno e uno l'altro. Non fate queste battute, io ragazzi. Io ho usato per avvicinarmi so le mie azioni. Ognuno di noi ne ha uno, io uso il tuo. Esatto, passatevi. Magari ognuno è più bravo con quello degli altri. C'è una torretta mounted twin light a Young. Allora cosa vuoi prendere questo? Che vuoi fare? Non so come si dice. Ion Cannon. Tu hai fatto già due manovre. Non puoi fare. Ion Cannon. Falla girare. Ion Cannon. Sei altro che Star Wars. Laser cannon. Aspetta, ma sparagli un missile nel culo. Sceo. Scusate. Ma spara un missile. Spara un ma il torpedo fa schifo in realtà. Ah, ma non è vero. Dire, insomma, 8 danni. Vai, sparagli. Sparo col cannone. Con quale dei due? Col torpedo bear. Allora, c'è uno. Ah, c'è il light. Ma quante armi ha un caccia piccolo? Stretto. La torre la torretta con i light ion cannon, vedi? Hai un cannon il medium laser cannon, cioè, secondo me l'altro pilota si è addormentato nel frattempo. Faccio con i laser. Vai. Sembrano più forti, no? Fai col laser. Ok, quindi cosa tiro adesso? Aspetta, io prima faccio un'azione che è gain the advantage. Gay Advantage. Gay Advantage. Vabbè, però che cazzo. Vabbè, ragazzi, la prossima volta tipo ci sarà tipo l'immagine tipo qualunque persona con questo simbolo e questa persona con la faccia di catta tipo sorridente non può entrare. Comunque se diventeremo famosi saremmo tipo Charlie Hebdo, lo faremo nell'ambito del GDR italiano, no, sarà tipo Charlie Hebdo, sai, puta merda. Vi ricordo che la pubblicità negativa non esiste. Grande discorso, sì, non potremo mai entrare in politica, Cattastroni. Oppure potremmo entrare proprio per questo. Allora io so che tiro 5 verdi perché è un Gunnery. Aspetta, prima c'è il gay advantage. Avete fatto zoomare, sì, la possibilità di sparare. No, dopo spari, però ti dà... C'è Kata che è stato il tappo del cannone. Cioè ti metti in posizione più comoda per colpirlo. No, è sempre... Sì, è... Arci a quello con la cordicella. Ma che altro bisognerebbe guardare... Spara il tappo di sughero presente. No, parla la bandiera di The Bang. Perché il nostro era proprio il carso. I cannoni della nave Salla sono colorati di rosso alla fine del tappo. No, sempre tre. Ok, fammi... Oddio, che sono disegno. Range close linked one. Linked one vuol dire che sono collegati, ma non mi ricordo cosa fa. Se fai due vantaggi puoi attivare il link e lo colpisci. Ok, bene. Dai, grazie, quello che è preparato. Piloting check, dammi un attimo. Ok. Mannaggia. Ah, no, comunque sono Vez e Kata nello stesso caccia, giusto? Sì. È scena. Uno davanti all'altro. Ho preso pure il talento per cosa fare... sparo, Capitano Marvel? Non ho una vaga, fa con quello che mi chiede. Ok, ora sparo. No, aspetta, faccio una manovra. C'è ancora Kata col casco al contrario. No. Io non lo vedo, non ho visuale, non ho visuale. Magari proprio a... aumenta la velocità. Vabbè, speronerà prima o poi. Il massimo punteggio che possiamo avere una caratteristica è 5, giusto? 6. Oh, 6. Mi hai detto che non andava bene 6 quando ce l'avevo. Sì, ma perché te l'hai aumentata non potevi, cazzo. No, in totale è 6. Però ci dovete arrivare. È che tu hai usato dei punti per aumentarla. Si poteva fare quando, sì, quando l'ho fatto. No, infatti te l'abbiamo tolto. No, purissimo. Allora, purissimo, purissimo. 4 successi. Togli questi due qui. 4 successi. E un vantaggio. Ok, c'è 10. Non ha una manovra evasiva. Riesce a togliere di casa. Però col vantaggio puoi togliere uno strain alla nave. No, la nave però lo può togliere a se stesso. Cazzo, ridi. Cos'è che hai detto? Riesce a togliersi il casco. Ora ci vedo. Ma sono un cazzo di caccia. Dai, hai perso il tuo momento. Spara. Ok, io sparo. Gunnery è agility, quindi 5 verdi. E che difficoltà? No, adesso c'è, abbi pazienza. No, ce l'ho persino io. Gunnery? Sì. Vabbè, ma te hai 1000 punti esperienza. Non giochi tanto. Che a te non giochi. Non vuoi. Perché essendo copilota l'avevo preso. Ah, giusto. Posso anche attaccare perché questa era una. No, era tipo 56 azioni. E la difficoltà? Vabbè, close. Cos'è? Uno? No, poi io. Aspetta. Mille neri. Non diciamo Salla subito. Cosa ridi lì a Marsiglia? Salladini. Quando nello vincerà le penne. Nell'oscurità. Domenica. Se vincerà le penne è un immigrato di merda che deve essere buttato fuori. Ma lui è comunque un immigrato di merda che deve essere le penne è quella della soluzione finale, vero Salla? Sì. Ci siamo già passati. Era di quando italiano di merda. Hai cominciato a cercare lavoro qua in Italia, quindi io ho un contratto regolare, che cazzo volete? Ma lui lavora per l'esercito. Al massimo lo condannano. Al massimo mi arruolano. Legione straniera. È vero. La legione straniera. Vabbè, intanto hai... Ah, Giulio, io al massimo 6 dadi neri, quindi cerchiamo di non fare cose. Hai... Sì, sì, esatto, non vorremmo intervenire per non far notare ancora di più la cosa, però non diciamo minchia, diciamo porco Giulio. Ah, scusami, hai ragione. Cosa? Spadato. No, no, stavo pensando, facevo del... No, quindi neanche... Starship, hai due neri. È difficilissimo. Beh, almeno non è durissimo. La prossima volta che vai, la prendono, lo lapidano. Vero, ci andremo. Prima lui ne va scoperta. Fuggite, shock. Buon anno, Sal. Cos'è stappo? No. È una finta arma. Guarda, Sal, quella lì sembra una paglia accesa. Sì, esatto. Adesso si inizia a farsi di genini. Se non sapessi la storia, sembrerebbe un porcino che cade su un cannone. Ecco, che non intendo. Cannone. Mi fate sparare. Due viola. Vabbè, lo posso aggiustare. È un nero. Due viola e due neri. Ah, sapevo io, Giulio. E non ho nessun boost, però. Quello che avevo fatto prima l'avevo già usato, giusto? Non hai altri malus. Ah, che cavolo. Vedi la cosa. Mamma mia, niente. Dei gran vantaggi. Sì, no. Sì, anche dei gran fallimenti, però. Anche mezzo al casco al contrario. Un fallimento e quattro vantaggi. Okay. I vantaggi li userei per darmi dei boost al prossimo tiro. Quanti ne posso usare? Quanti boost posso avere? Quanti vantaggi fa? Quattro. Allora facciamo che... Sì, ne uso... 3 e 1 recupero uno strain. Ok. Ho mancato, capitano, come al solito. Di nuovo io di manovra non posso mica fare niente, giusto? No, casa, scemo. Sì, scemo. Faccio un punch it per scappare. Ok. Allora scemo è preparatissimo. Quanto velocità? La massima non posso fare, no? Sì, puoi decidere. Vabbè, 3 è la massima, quindi... No, prendi 3 strain. Ah, è uno ogni velocità? Sì. Mm. Ah, no, beh, prendi. Uh-huh. Beh, certo. Vabbè, gli strain ce li avete, Sì, sì, sì, no, però... va bene, riesco a allontanarmi come funziona. Quanti è un'azione? È una manovra. Una manovra, ah, dovresti anche muovere. Se io uso lo strain posso usare le due azioni, giusto? Prendiamo anche due strain. Due... Azione due manovre. Perché altri due strain? Perché due manovre in teoria. Ah, no, non posso fare. Se rinuncia all'azione. Sì, sto solo scappando. Okay. Quindi sono fuori dalle gittate. Tu pensi? Cioè, fai in modo, diciamo. Allora, tu ti allontani. Queste sono antiaerea, quindi potresti comunque essere ingittata. Comunque puoi più agilmente puoi allontanarti ancora di più. Fare manovre così. Ok. No, è per il suo figlio. Non è un figlio. No, però dice, si parte lì sul figliuolo e gli leccare la testa. Sapete dove succede? Cioè, è tipo un sesso droga e pastorizia. Okay. Sì. Dire. Salutiamo. Stesso droga e pastorizia, non credo che condivideranno mai. Nemmeno stesso droga e D&D ha fatto. Anzi, ci ha detto che non era il loro caso. No, ma quello è il settore sbagliato. Esatto. Non era il loro settore, evidentemente, Urban Heroes, quindi niente. Allora. No, siamo per una categoria particolare. Sì, giochi di ruolo, sai. La tizia. Capo molto alto. Faremo la campagna di D&D. Target. D&D, se facciamo arrestare, forse. Però per D&D potremmo chiamare i poliziotti e chiedere se possono rifare la scena, dai, alla fine. Sarà un po' più difficile con Dark. Oppure la chiamata anonima la facciamo noi. Beh, però è complicato. Il vicino ha sentito parlare di frecce infuocate e si sono spaventati. Tipo. No, magari dici Andres Blast. Oddio, no, però possiamo fare come quelli lì che ci avevano scritto, che hanno detto che loro avevano fatto dei rituali satanici. Sì, praticamente una vecchina gli dava dei satanisti e gli urlava dalla finestra. Sì. Io comunque tra un'oretta chiudo, quindi vedete voi. Ciao Salla. Ciao. Mandami l'audio dopo. Ah, raga, ma io ve l'ho detto che era lunghissimo sta cosa. Abbiamo anche iniziato tardi. Sì, vabbè, ho capito, ma è tipo super lunga. Vabbè, abbiamo iniziato tardi, ma era comunque un'ora e mezza fa. Avrà un Guardiani della Galassia, una cosa. C'è colpa mia. Avete di scudi? Quanto avete di scudi? Uno. Uno sopra e uno dietro. Più uno perché ci sono io al bordo. Allora, c'è il tempo della merda. No, però uno lo rimuove. Aggiornamento meteo, per chi ci segue in diretta, piove di brutto. Ma il mare a venire c'è la piedi di qua no, qua c'è stato io. C'è scusato l'ombrello. Che coglione che sono. Ma poi. Qua si sta da Dio invece. Fulmini. Sì. Ah, ma sono già visti due. Ah, se ridi, tra poco ti prendono, ti vengono a prendere col camion e ti portano. Sì, ti va bene in Italia, se ti va male un po' più in su in altri campi. Sono già visti comunque due o tre lamponi. Lamponi? Lamponi? Lamponi. Sì. Vesta, hai un ombrello in più. Vesta, c'è una pesca contro la finestra, se devi aprire. E stata la sessione di Star Wars. C'è un cocomero incastrato nel camino. Non sono lampi, sono le astronavi che combattono in aria. Certo. È chiaro. Ha una velocità pazzesca, tra l'altro. Sì. L'idea è che se esci con una ciotola di yogurt ti sei fatto il dolce. Un po' di muesli. Cioè, sta venendo giù veramente il mondo. Sì. La cosiddetta Macedonia. Chiusa la finestra lì. In bagno aperto. Ah, in bagno era aperta. Raga, no, forse l'avevo aperta io, mi sa. Non l'ho aperta di sicuro io. L'importante è quella della cucina perché piove là. E poi macchiano, occhio. Beh, sì, cazzo, sì, lamponi macchiano mezzo, spara che non abbia niente di steso, non ho danni. Ok, meno 3 di armor, andiamo a 6, abbiamo metà. Minchia, sono senza ombrello, sai come arrivo a casa tutto blu? Rosso e blu, non so. No, no, però vabbè, siamo in vita. Non so. E poi provano a sparare di nuovo a scelto. Ma sono lontano e non mi prendo, dai. Aumenta le difficoltà, dai. Mettine un altro, dai. Ma Shul, tu invece non puoi decollare e venire da noi. Già fatto. Per ora mi sono allontanato dalle torrette, poi adesso vedo. Ci sta sparando. Le torrette saranno esplose a sto punto. Ci sarà un momento in cui le torrette esploderanno. Beccano o non beccano? No, lo beccano. Lo beccano. Vabbè, ho ancora 3 danni da sopportare. No, dico, ci sarà un momento in cui le torrette esploderanno, basta aspettare. Meno 4, 5, 6, meno 2. Cioè, vado tecnicamente meno 2. Non esplodono, no. Fanno un incidente. C'è cioè, qualcuno che le alza. Quando superi il lutrama... prendi un critico. Precipita. No, prendi un critico. Ah, top, allora siamo a po'. Rega, no, prendo solo un altro critico, ma va, non mi spavento neanche. Quanto hai fatto? 88 più... No, Sceo, ma il problema è che... tranquillo, è tutto sotto controllo. Cioè, non è che tu stai prendendo dei critici che chi se ne frega, è che la nave sta prendendo dei critici. Tranquillo. Cioè, tu puoi anche esplodere. Dai, esatto. Se ne frega. Dai, rovesci una bottiglia di vino in bagno e facciamo una sangria. Mi va anche bene. Era bagnato. Semplicemente gli scudi sono definitivamente andati a puttane. puttani. E cioè quindi non avete di più difesa. Cazzo, vabbè, scrivo no scudi così. Avete colpitato una volta. Prendete 4 punti di strain a terra. Fai finta di essere punti di strain. Quindi vado a 7. E cosa scrivo? Qua mi hai fatto scrivere. Vai, aggiungi danno critico hard 3. Quindi gravità 3. Diventa 3. Ma quanti soldi dobbiamo spendere? No, diventa 3. Cioè, non tutto diventa... perché Shio è decollato. In totale, se fanno un altro se critico, fosse stato dove... a terra, sarebbe stato solo. Scrivo più 3 per capire. Shio, tutto questo è perché tu sei decollato. Shio, non capisco perché sei decollato. Hanno fatto un tiro della Madonna. Ma ti stanno tirando anche quando eri a terra? Una volta quando era a terra. Vabbè, allora doveva scappare. L'ho fatto. Cazzo, ma vabbè. Scusa, chi è che sta sparando a Shio? Torretti, cannoni, però è strano, cioè lui era, ma le torrette avevi detto tempo fa che non potevano colpire all'interno del loro stesso villaggio perché era il loro stesso accampamento. Vabbè, ha cambiato idea. C'è un video? C'è un video che lo prova? Non mi sembra. C'è un video. Sì, è molto vecchio, è vero, però... Allora, per due turni non hanno sparato, poi hanno deciso che comunque era il caso di sparare. Sì, comunque questa qui lui era già andato via nel primo colpo, sì, ma lui era fermo, era un bersaglio fermo, cioè dopo due turni che prendi la mira, però era piano, era fermo all'interno della base. Non era all'interno, era vicino alla base. Dai, rega, no, ha parcheggiato dentro la base, tra le non può cazzo di dentro. Dentro. No, allora, è impossibile. Era a terra, non avrei mai fatto partire caccia. Allora, se tu hai cambiato la cartina è un discorso. Un attimo solo. Se tu hai cambiato la mappa è un discorso, però la volta scorsa, cioè due volte fa, era parcheggiato all'interno della base, tant'è che lui con non la può parcheggiare nave... all'interno della base, c'è una torre all'interno della base. Ascoltami. Sono 6 torri e una centrale. Aspetta, lui dice che non è più in un hangar. Non esattamente. No, lui ha parcheggiato all'interno della base perché ha parcheggiato sotto la torre, perché io mi sono praticamente io sono salito dalla torre sulla sua nave e lui è semplicemente atterrato lì. Okay, poi non è parcheggiato all'interno della sala base. Lì è il parcheggio disabile, capisci? C'è una torre, questa qui è di fianco alla torre. E tu avevi detto finché state a terra le torri non vi possono colpire, non perché è in alto, non può stare a terra lì. Lui ha atterrato lì l'altra volta, però vabbè, cioè nel senso, e allora non è dalla torre, è da un'altra parte. No, la volta ormai scorsa sparando, vabbè, dai, la volta tocca. Scorsa c'è una torre e sei torri che la circondano. Allora, indipendentemente dal fatto che non sia stato lì dentro, la volta scorsa era così e mi ricordo che tu hai detto non può sparare all'interno della base. Sì, infatti per due turni non hanno sparato. Poi hanno preso abbastanza la mira, hanno detto la base è a puttana e hanno sparato. Vabbè, io lo ricordo. Ok, va bene. L'opposing piloting. Se metto così è come se sparare. Sì, la tua testa, sarlo. Quanto devo tirare? No. È il mio gioco. Esatto, effettivamente l'hai già fatto tu. Posso sparare? Aspetta, prima faccio sta cosa. Per togliergli il gain. Il mio talento, fatto... quello che mi le impedisce di spararmi per un numero di round pari alla mia agilità. Devo fare un opposing piloting check. Sì. Quindi penso tu mi devi dire se poi dopo tieni queste pagine, i suoi gradi e io tiro il mio rispettivo di viola, mi sa. Ok, non ha aspi. Piloting sì. Due rossi e due viola. Forse? Okay. Quello stai e due viola, quello che ho fatto l'altra volta per non farmi sparare. Io dovrei farti 3.5. 5.5. No, 5.5. Allora, non è male, sì, però c'è un però c'è un dispero. Grazie. Allora, sono questo e questo, 1, 2, 3, 4 successi, un vantaggio e un dispero. Quindi 3 successi in realtà, giusto? Che il dispero era successi. 3 successi e un vantaggio. Lei non mi può colpire per un numero di round pari alla mia agilità. Cioè 5 round, ma voi perdete un'arma a caso. Noi o loro? Chi? Tira il dado percentuale, scegli la percentuale, sono 3. Cosa hai fatto? Hai fatto un cazzo di disperso. Eh sì, Vabbè, però dimmi però... che armi avete? Torpedo? Abbiamo i torpedo che sono dei missili, abbiamo i cannoni ionici e i cannoni laser. Allora, 0,33 torpedo, 66 fino a 66 laser e il resto laser. Cioè, 100 ritiri, 43 ionici. Ionici? Va bene, va bene, va bene ionici. E ma poi distrutti proprio. Mi manca questo, no, sono era... fuori servizio. Questa era un'azione o vabbè, sono una manovra. Cosa posso fare nella manovra? Prendere il vantaggio per cosa? Ok, il vantaggio. Non stai in un target. Va bene. Dove stai un target? Niente, semplicemente fai questa manovra, lei dopo ti colpisce più facilmente, ma tu adesso la colpisci più facilmente. Beh, ma tanto lei dopo non, esatto, non mi può colpire. Vai, sono sul bersaglio, cazzo, è il tuo momento. Mirare è una manovra che io posso fare? No. No, non c'è. Non c'è descritto. Non c'è. Quindi no, no, c'è solo lo stay on target che lo può fare solo lui. Adesso passa. Ce l'hai. Va bene, quindi ho i soliti 5, più ho 3 boost di prima, più... Allora, cosa uno viola di... No, aspetta. Ti upgrada... Hai flippato qualcosa tu? No. Mi sa che se ne da di bianchi e da di neri, di base. Non, se non credo che siamo okay, ancora... Hai due... 3, 4. Bianchi, sono sì. Io. Sì. Quanti neri hai fatto? Due sì. Gialli al posto di due verdi. Anche lui ha fatto un... Prego, e poi difficoltà? Quella di prima... Due viola? Due neri... Due viola e due neri? Due neri e due viola, sì. Vai, grazie. Mega pool. Il pool è buono. Devi togliere il calcio, voi. Mamma. Questo non l'hai tirato, grazie. Eccolo scemo. Dai, siamo onesti. Beh, vabbè, verdi. No, in realtà hai fatto un gran tiro. Ho fatto un buon tiro, dai. Hai fatto un buon tiro. Allora, vedo che... Posso aiutarti? Aspetta. Questo, esatto, lo metti vicino a quello e li togli. Sì, si tolgono. Questo con uno di questi. E il resto è buono. Quindi ho... Minchia. 2, 4, 6 successi. Stavo parlando con Sam. E quattro. 4 vantaggi. 4 vantaggi. Allora, l'hai colpita? 6 successi e 4 vantaggi. Esplode. Allora, ho critico 3, mi pare, giusto? Non so, sapete voi le vostre. No, sto guardando. Critico 3. Quale sono i vantaggi, giusto? Mm-hmm. E linked 1. Con laser, no? Quindi con un con due vantaggi devo usare, posso usare il linked, giusto? Ok. Quindi uso due vantaggi per attivare il linked. E gli altri due mi darò due boost dopo, se posso. Okay. E poi gli altri sono 6 danni più si aggiungono quelli in più, giusto? Quindi 5, 11, però una volta sola, 11 e poi 6? Sì. O su te 2? No, credo che 2. Quindi 2 volte 11. 22 danni hai fatto? Minchia. Squave, spara? Mi sono immaginato, i vetri dei pullman, beh, che hanno le tendine. Mi sono immaginato le tendine dei pullman, però sulla nave di Katta. 5. Che dopo si è tolto il casco. 5 la cosa. Aveva le tendine in faccia. Continuano a vedere. Tirami un critico. Sono immaginato la tendina spianata con fatto, la forma della faccia. No. Però hai fatto abbastanza danni da farglielo subire. Quello che 5. Che merda, 5 centri. Che merda, 20.000. No, 22. 22 su quanti? 5. Ha sofferto da uno strain. 5. Praticamente si mette a il pilota si mette a ridere. Si è guarito, l'hai guarito, l'hai curato. Allora, 12, infatti gli ha fatto 12. Talmente tanti danni che equivale a un critico. Probabilmente ha superato. La sua può nave, vedete che si allontana. No, si cazzo. Però ripigliare. Lancia un missilazzo. No. Beh, potete come le panci, non lo possiamo fare. Beh, il missilazzo la spazzerebbe. Perché non ci vai giù di pesantezza, gli dai un cuccio con la nave? Ma scusa, quando è che c'ha Brix? Quando abbiamo avuto tutti roba? Quando vai in tira una tabella dei critici c'è scritto guardarmi esplodi. Ah, quindi accumuli critici finché... Ok. Vabbè, una nave per una nave, dai. È lunga e dura. Quindi... Vabbè, fai il punch. No, è un'altra cosa. Ah, giusto, hai ragione. Cioè, da close a long sarà medium. Ma è a velocità 5. È lo step di velocità, esatto, sopra il vostro. Catta, quindi, metti via Gevellotti e le fionde. Possiamo arrivarli a short, però, forse. Sì. Da, aspetta, da, no, no, medium, da long a medium, come ha fatto all'inizio. Mette. Vabbè, fai ma medium. Se fai due manovre, no? Meno. No, due manovre per arrivare a medium, perché da long a medium c'è molto. E vi arriva una scarica di cannoni che adesso... A noi? Ah no, stava prima la scena. Una scarica di diarrea? Vabbè, mi allontano di nuovo. Posso allontanarmi nella loro direzione, più o meno. So dove sono, in teoria. Sì, sì, allora, certo. Chi? Loro... Così ci porta un po' di fuoco non addosso. Voi, loro, loro. Ah, beh, giusto. Intanto okay. Io so che cioè, posso evitare qua. I cannoni andando stiamo scopando i buchi. Massimo, faccio il giro prima ad andare nella direzione dove i cannoni non possono spararti. No, non credo, Sallo. Direi che saremo ancora al abbiamo fatto portato due passi nella foresta. Sei lì che guardiamo i funghi e i licheni. Questo è il nord. Sicuro. Vita di merda. Sì. Stiamo raccogliendo qua ci sono i cannoni. Io sono di là e loro sono tipo là. Non so. Però volevo raggiungere più o meno sono sopra Ah beh, allora niente, semplicemente mi allontano ancora e da lì dentro posso vedere se posso una volta lontano aggiustare un po', insomma, No, hai già fatto un tiro di aggiustare, puoi farne uno a combattimento. Ah, come per le persone il curare, ok, ho capito. Va bene, allora ok, io voglio intanto fare un piloting, no? Devo tirare che hanno stanno quindi vai, sta a loro, provano un colpo contro la vostra nave. Tanti danni. Ok, la vostra nave di chi? No, il caccia. Ah, ok. Ma chi? Cannoni? Sì. Vabbè. Ma dove siamo? I cannoni di terra? Ah. Ah. Ma muorono da un sacco, non sono lontani. Boh, non so dove sì, arrivare. Rispetto a terra siamo tipo a long. Anche noi. No, siete in un'atmosfera alta. Cioè, siete fuori all'atmosfera, ma il cannone ci arriva. Non ci arriva bene. Allora. No, ma quello che chiedo io rispetto a come c'è la curvatura del pianeta non si sono allontanati, quindi sono solo sollevati. Sono stati lì quindi. Uno di difesa in più, silhouette 3. E poi cos'altro vuoi sapere? Scusa, scusa, ma se uno di questi robi ci becca, sì, perdiamo due navi su due. Siamo tipo ultra tutti e tre quarti della compagnia. Vabbè, quello non mi preoccupa. Tre quinti della compagnia. Più le navi, non vi becca, no. Sì o no? Sì o no? Troppo tiro troppo bene. Mi sta uccidendo la suspense. Mi sa che siamo fregati, però. Sono 9 danni. Critico è praticamente tutto quello che abbiamo. Siamo a 0. No, come a 0? No. 12 era. La tipo ci ha fatto 6 danni. Scariamo picco. 15. 9, adesso 6. Me ne hanno fatto altre 6. Abbiamo armor 9. 3 di armor. Ah, scusami, non avevo contato questo. Esatto, allora vai a 2. Armor la contiamo. Sì, certo. Sì, scusami. Scudi e lo scudo 2. Una, allora niente, meno 2. Quello per scudo l'ha tirato, vedi quello. Quello è per la difficoltà. Ah, quindi ricordiamo a picco? No, un critico. Ma guarda che, ad esempio, era una bambola. Minchia, ricordiamo a picco. 100. Andare oltre questo. Bravo. Andare oltre. Sai poco. Fa un critico. Poi i critici si vanno a sommare e arriverai a un punto che muori. Il motore è danneggiato, critico di gravità 3. Avete avuto sfiga qua. La velocità massima della nave è ridotta di 1, quindi vabbè, 3. Mm-hmm. quindi e basta. Niente, non posso. Beh, vabbè, rallentate solo, sì, neanche per arrivarmi. Ma sì, noi, solo che c'è un altro round in cui gli sparerà di nuovo. Si possono allontanare, si spera. Il problema è che non riuscite a raggiungere. Ma andiamo piano, quindi no. Adesso la nave che sta scappando si gira. Ok, arriviamo sulla doccia. I cannoni arrivano, eh. Non ci arrivano bene. Sono 12 critici. Okay. Sì, è vero. E dicete, vabbè, non ci arrivano tanto bene i cannoni. Bam! No. Vabbè, è inutile che mi guardi le manovre. La cavalleria, cioè, arriva. Io ho tirato un giallo, un verde, tre viola e due neri. Minchia, che sfiga. E come non ne ho fatto tre trionfi. Ma tu hai tirato solo un giallo. Non ce l'avete voi nel quale parte con i tre trionfi? Avvisiamo Trandoshan di scappare, libera che vei. Di farci ascolto uguale. Fuggite, di contrarre. Ok, quindi resta. Ma tu non lo sai. No, loro sono andati là per quello. Ah, ok, l'hanno detto. No. Che loro sì, sì. Noi ci siamo spostati dicendo andiamo verso i cannoni. Andiamo a distruggere i cannoni. Sì. Ok. Poi voi siete partiti. Non era tipo salite sulla nave. Fanculo! Sì, i non vi cagano molto. Sì. Perché vedono che il caccia non si sta allontanando. Gli alberi non hanno difese. Uccidiamoli! Cioè loro vanno sul pianeta in cui la base è stata demolita dai loro stessi cannoni e i cannoni sono demoliti da Arci. Cosa? Parola ancora. Praticamente loro arrivano al pianeta e c'è la base che si è autodistrutta perché si sono sparati dentro e poi Arci tu sposti i cannoni. La flotta che avanza. Ma in contemporanea? Questa volta le cannonate sono poco precise. Che caso. Talmente poco che precise che mi colpiscono di nuovo. A un certo punto voi restate lì nello spazio, bro. In alto. Nello spazio in dipende basso. Giulio, se ci dai la possibilità di fare qualcosa la facciamo. Sì, deve fare qualcosa. Allora sta a noi, insomma. Sì. Allora capitano, fai in modo che lo corriamo a picco. Dobbiamo posso atterrare lontano. Sì, dopo atterrare. Il caccia non possiamo beccarlo, giusto? Non ci possiamo arrivare a short. No, perché è troppo più ormai, cioè, già prima era molto più veloce di voi, adesso che avete il danno atterro lontano e comincio a guardare i danni, so che non posso. Però di sicuro l'avete conciato così male che non tentano di ringaggiare. Beh, la cosa è reciproca. E invece. No, cioè la pilota. La pilota comunque tiene alla sua vita. Però, è lontano, ma lo vediamo comunque. Sì, cioè, lo possiamo fare, possiamo fargli lo scan. Sì, lo scan lo potete fare in tutto il sistema, mi sa. Una cosa la vorrei fare. I vostri scanner individuano in tutto il sistema. Posso quindi io tentare di entrare nelle loro comunicazioni. Lei ha perso le comunicazioni, però non lo sai. Lei, però la base... Non lo sai, però tu ne sai. Vabbè, la base... Okay. Io lo so. Sì. No, show è come quelli che chiamano per le pubblicità. Esatto. Chiamo Stefano. Show che entra nella comunicazione. Sono veramente euforico. Due successi, basta. Ecco, okay. Scan the enemy. Se senti una comunicazione disturbata, perché riesci a intercettare dei stralci tanto. Praticamente cosa sta succedendo? Mandate le truppe fuori, mandate le truppe fuori! E poi senti una grande esplosione. Non sono uscite le truppe. E rumore sta. È arrivato. Io provo un scan the enemy che è un hard perception check. Sì. Quello della porta. Hai capito, Arci? Sì, le truppe stavano uscendo e tu hai colpito la porta. Che pezzo di merda. Non potevo saperlo, però. Perché voi non l'avete ascoltata, ma praticamente Arci per aprire l'hangar ha usato uno delle contraeree, l'ha usata per sfondare la porta. L'ho tirato come Ariete addosso alla gente, quindi ho preso una torretta. C'era la porta chiusa, però era una torretta. Sì. L'ho preso, l'ho tirata contro la porta che era chiusa. Ma quanto è il silhouette? La torretta 4. Ah, e tu puoi tirare il silhouette 4. Io vorrei fare, due, vorrei fare una prova di perception per scannerizzare il nemico. Che è una prova di difficoltà 3. Posso usare i due boost che avevo dato, che sì, mi ero preso? Ok. Allora, tiro. Sì. Allora, direi che riesco, però ho molti svantaggi. No, non ne hai. No, però non ho due vantaggi. Ho un successo e due vantaggi, direi. Che dice così. Dice, se successo, imparo le armi che ha la nave, e modifiche, le strain e i danni. Tutto o una cosa? Aspetta, che ha totali. Poi io posso usare due sì. Poi se posso usare due vantaggi che ho, se non sbaglio, per sapere l'attuale system strain e trauma levels. È un classico X-Wing in un caccia alla superiorità aerea. Ma va anche nel iperspazio, queste cose qua? Okay. Quindi potrebbe scappare benissimo quando gli pare. Sì, come tutti gli X-Wing ha l'iperdrive. Ha dei laser cannon che hanno raggio medio. E ha dei torpedo. Ah, quindi poteva ucciderci. Ok. Basta di armi. E come livelli? Ha 10 strain e 10 ultra. Ok, quindi è meno 20, meno 12 sarebbe. Cioè, è sotto un'armatura. Ah, ok. Quindi no, ma io so quanti ha. Vantaggi di dirgli anche lo stato attuale. Meno 6. Meno 6 e di strain invece 8. Ok, posso. Va bene. Gli dico, capitano, hai messo abbastanza male il caccia davanti a noi. Peccato non poterlo raggiungere. Però adesso anche perché si è avvicinato e mi sa che vi one shot a lui se si gira. Non può ancora attaccare. Lo potete chiedere a qualcuno della... Se loro ce lo attaccassero, noi poi magari potremmo avvicinarci e sparargli un missiletto. No, non puoi poi chiedere a qualcuno degli altri. Gioro i Trandoshan di merda. Allora sono alla terra i Trandoshan. Vabbè, noi praticamente state incrociando. C'è un nemico fondamentale. Potete chiedere a qualcuno se devi. Che loro, come hanno visto il nemico, hanno detto che se ne va, andiamo sul pianeta. Il punto è che le navi Trandoshan non lo prenderanno mai. No, però mentre lo incrociano, cioè, in teoria, se ho capito bene, la dinamica è che si stanno incrociando. Cioè, i Trandoshan vanno giù mentre loro andavano in su. Quindi in teoria l'hanno incrociato il caccia. Sì, ma il caccia da loro si era già allontanato il turno prima. Faccio il damage control. Okay. In teoria è un viola, no? Perché di system strain noi ne abbiamo ancora. Sì, ma di uno tutto. No. Tu quale fai? Per il strain o per lui? Per lul. Allora lul è 3. Ah, ok. Total strain, total lul. Ok. Allora. Due successi e uno svantaggio. Recuperate due di lul. Siamo a zero. Sì. Oh. Bravo. Ma come hai fatto a recuperare lui? Damage control. È lo stesso che avevi fatto. Che si fa zero. Eravate a 12. No, eravamo a meno 2. No. Avevamo preso un colpo da terra. Che te l'aveva fatto 9 meno 3. Era 9. Meno 3, 6. Che hai ora 2 di armatura. E hai considerato anche che noi ci muovevamo più velocemente del cannone? Speed advantage e difficulty. Hanno 4 viola. Va bene. Niente, io quello che potevo fare l'ho fatto. Ci godiamo la scena dell'assalto a Kashyyyk. Direi che però invece, non so... dobbiamo trovare qualcosa da fare. Direi che adesso aspettate perché noi decolliamo e vi chiamiamo. Terra per sapere. Se volete, esatto, potete raggiungere intanto me e ci raggruppiamo. Io sono atterrato un po'. No, la storia è che dopo un po' noi vi chiamiamo dallo spazio. Mm-hmm. Va bene. Aspettiamo la chiamata delle forze di terra. No, aspetta, intanto noi non sappiamo che loro ci chiameranno dallo spazio. Sì, che lo sapete. Noi ci raggruppiamo con Sheo. Tecnicamente col Comlink potrebbero intanto parlarci. Noi ci raggruppiamo con Sheo, evitando però il raggio di sti cannoni, se ci sono ancora, ma forse non ci sono più. Beh, in realtà col Comlink non riusciamo perché in questo momento stiamo stuprando delle persone sottoterra. Vabbè, se loro ci mandano una comunicazione l'ascolteremo, non sapendo, e okay, andiamo. Vi riavvicinate, il caccia rientra nell'hangar. Della vedete mare. Che la nave non è messa molto bene. Il vostro caccia non è messo bene, ma la nave... Sai tipo i genitori ai bambini, tipo, a noi andiamo a una festa, non mi rovinare casa, è uguale. C'è uno, che cazzo è successo alla nostra nave? È dato una festa. Però sono riuscito a scappare. Ma perché ti hanno attaccato i cannoni? Dovevi stare lontano dai cannoni. Mentre mi allontanavo mi hanno sparato. Capitano, digli qualcosa. Impiccato pubblicamente tipo il doppino, staccati il braccio, colpisci da solo. Avete due signori. Poi sarà bando alle ciance, cerchiamo di riparare i danni. Non possiamo, l'ho già riparato una volta. Lui adesso lo posso riparare. Puoi fare una penna. Beh, combattimento, però è già finito. Vabbè, per allora, noi è come se fosse adesso i danni, devi andare un po'. Scusami, il droide che abbiamo in teoria ripara. Proviamo a riparare il droide che magari ci ripara. No, no, la nave ha già subito una riparazione, non okay, posso subirne altro. Come le guarigioni? Il caccia, tuttavia, il caccia posso ripararlo. O l'ha fatto il caccia? Posso ripararlo. Ok, da su prima. Però scusami, vabbè. Allora basta, non possiamo fare niente. Prova a riparare il droide. Cosa droide hai riparato? Scusami, la manopola del bagno? No, l'ho riparata di parecchio. Poi però il miscilatore della doccia, Arci. Per cento. Segnava bene il caldo freddo. Farlo quanto vi pare. No, il problema è che ha fatto una marea. Che ha fatto una marea di prime. Allora, lui ha aggiustato il seggiolino. Allora, sono un po' più dello strain, volendo posso togliere dello strain, non lo so, ok, in teoria Sheo potresti provare a riparare nel caccia. Allora ci provo, vai mechanics, quindi posso provare a riparare la Babbo Donald. Sì. Allora io faccio mechanics con difficoltà. Posso provarci anch'io. Cosa vuoi riparare? L'ultrama o il critico? Lo sto dando il cambio. Forse è meglio il critico in questo caso, che sono gli scudi, o meglio l'ultrama, sono a zero. Critico, no, tu stai riparando il caccia, sì. No, l'unica sfiga è che ha la velocità ridotta di 1, ma non allora è un trauma, sì. Okay. Il caccia sta nell'hangar. Non so. Allora, minchia, tanti svantaggi. No, vabbè, in realtà non è male. Sì, via. Quindi... Cos'è, un successo? Due successi e tre vantaggi. Sì. Due punti di uno. E i vantaggi non servono a niente. No, sto tirando. Io invece provo a mettere. Non recupero lo strain del caccia. La Nababbo. Vuoi recuperare il tuo strain? Non ne ho persi. Tu? Lo strain o i critici? Due successi e due vantaggi. Lul cosa o i critici? Lul. Avevi le difese abbassate di uno. No, avete proprio più gli scudi. Due successi. E tre vantaggi, due punti di ultrano. Rimaniamo a zero. Non abbiamo più gli scudi. Forse era quello che bisogna. È uguale in realtà. Cioè, se hai messo di merda comunque, non cambia molto. Cioè, guarda, tipo quello di Fred Fliston che catta e mette giù i piedi. No? Non abbiamo tanti soldi. Cioè, siamo un po'. Sì, vabbè, siamo rubati. Speriamo che Tron ci arrivi. Aspettiamo notizie dei nostri amici. Passa un altro giro. Vabbè, noi proviamo a contattarli. Proviamo col Comlink a sentire. Dove cazzo sono quei coglioni? Dove coglioni sono chi? Abbiamo dominato. Io mi immagino ancora quegli stronzi tipo uscite le truppe. In effetti di tutto acquista ancora più sapendo questa cosa. Non lo sapevo. Possiamo usarlo qualche light side. In teoria con la forza percepisci. No, è che percepisco i coglioni. Ecco, questo magari non ti fa sta a voi. Voi eravate arrivati all'astronave del tipo. Noi no, noi stavamo, credo. No, cioè, noi siamo da quello che. Salla ha cominciato a sgozzarli tutti quanti a raggio. Sì, ma avete finito di sgozzarli tutti quanti a raggio. Ah, abbiamo già finito, abbiamo già superato. Sì. Quello, ora vi salvo la vita, giratevi. Sì. Quindi Carlo è stato ucciso, abbiamo già sfondato sì. tutto lo sfondabile. No, e poi mi ricordo che noi siamo andati nella nave, siamo decollati e poi abbiamo chiamato Sheo. No, ok. Ah, è vero che siamo col Jedi noi, no? Esatto. Jedi. Sentite, sentite... una comunicazione in arrivo. Rispondiamo. Nel comlink o nella nave? Nella nave. Nel sistema di comunicazione della nave. Vabbè, apriamo la comunicazione. E... Pronto, capitano? Pronto? Qua Big Fest, abbiamo ucciso tutti. Cazzo è Big Fest? Ottimo lavoro, Zoln. Voi tutto bene, eh? Gran strategia, gran assedio. Siamo, ci sono stati un po' di fuochi d'artificio. Sì, abbiamo sfondato tutto. Di che è scappata la tizia, però. Sì, la pilotessa se l'è data a gambe. Però voi avete almeno sterminato un sacco di truppe. Truppe, c'era lei. Un sacco di caccia. C'era un caccia. Che cazzo avete fatto? Abbiamo combattuto contro il caccia. Vabbè. C'è questo tuo essere gioioso del massacro che hai appena fatto. Magari saremmo riusciti a ucciderlo se qualcuno avesse disattivato i cannoni in tempo. Salla, ma ragazzi, sono veramente un porco. Sì. Ma stai scherzando? Io ho appena sterminato Karl Marx lì, Carlone. E poi ho detto agli altri, rega, siete stati bravi, vi salvo la vita. E appena sono voltati li ho uccisi tutti. Ecco, nel frattempo noi subivamo colpi dai cannoni che dovevamo disattivare. Io ero piano di sopra a fare tu eri stato accompagnato maestro che no no raga, cioè spero che abbiate fatto anche dove siete? Avete gioito anche voi di questa strage bellissima? Ma è serio? Sta parlando. Ci sarà il tempo per festeggiare quando saremo a terra. Cioè, gran tattica comunque. Siamo a terra. Ah, ma no, siete a terra, perché noi invece siamo decollati a cercarvi. E dove siete? Con cosa siete decollati? Sala, digli del Jedi. E siamo con un collaboratore. Dateci le vostre coordinate, così... Capitano, cosa sta succedendo? Non ha più senso incontrarci a terra e riunirci. Sì, ma a terra non si stanno pestando i Trandoshan negli Wookiee. Infatti, noi dovevamo dare appuntamento ormai diciamo che sembra che i Trandoshan stiano prendendo il sopravvento, anche perché è tutto devastato. Suggerirei di andarci a prendere noi in teoria dobbiamo andare in un posto, però possiamo vederci prima in orbita. Va bene. Incontriamoci. Il tizio va bene al tizio? Sì, tizio. Va bene. In orbita o a terra? No, in orbita, a terra cazzo, si stanno picchiando. Già siamo particolarmente portati nel combattimento aereo. Ma potete anche andare sul vicino pianeta Trandosha. Ma Trandosha non facciamo cose strane. Allora, voi vedete, vabbè, prima i computer di bordo iniziano a segnalare una nave in avvicinamento. È sostanzialmente è uno shuttle, quello che sembra una specie di shuttle imperiale. Mm-hmm. Bene, chiedo conferma se sono loro. Sì, identificatevi. Esatto. Ma che parola identificatevi? Siete su un rottame, che cazzo volete? Ho capito, ci sono delle procedure comunque. Procedure, fino a ieri eravamo a braccetto con l'impero, adesso vedete uno shuttle imperiale, vi spaventate. Beh, per sapere se comunque uno fa identificatevi, no? Oh, uno shuttle poi, imperiale, che bello, schiacciamoci contro. Poi hanno fatto passare lo shuttle su cui c'era su Han Solo, sapendo che c'era su Han Solo e Luke, e beh, si è visto come è finito. Certo. Ma lo shuttle è tipo quella merdina in realtà. Sì, è tutto a fuoco. Questo è un po' più grosso, questo è un po' più grosso. Una merdina, se lui vi sputa sulla nave esplodete tutti. Diciamo che è più simile a quello di Kylo Ren della nuova... Ma lui non ha un laser cannon che arriva più così lontano. Io devo correre. Vabbè, no. Calma, vale un sacco di soldi, è meglio non danneggiarlo. dovevamo sparare addosso a noi? Sì. Esatto. Va bene, attracchiamoci. Solo perché Sam era sgodevole. Ma no, sgodevole, cioè... Lo shuttle, raga, non avete, no, aspetta, cioè guardatelo, guardate dal mio punto di vista, cioè noi vi avevamo detto andate a uccidere il caccio e noi facciamo la nostra parte, noi abbiamo fatto la nostra parte come al solito. Ma come al solito, solito il caccio l'abbiamo sconfitto. Prego, l'unica cosa che ci ha dato sono stati i cannoni mentre tu sgozzavi gente a caso, comunque. Sai quanti, vabbè, soldi di nave, di danni alle navi avete fatto? Abbiamo, ma magari se qualcuno disattivava i cannoni. Li abbiamo, esatto, disattivati i cannoni. Sì, dopo che ci hanno sparato tre volte. Fatta che gli hanno colpito tre volte e ha sparato solo tre volte, perché per due turni sono stati fermi e poi sono stati distrutti. Scusa, mettetevi nella mia ottica, e avete fatto un cazzo come al solito. Vabbè. Va bene, vai col laser, il turbo laser. Va, scusa, bene, allora. Il mio personaggio è convinto che voi non avete fatto una sega. La nave si sta avvicinando. Infatti noi vogliamo rimediare subito. Ripiega le ali e si deposita sopra a Babbo Domus. È un po' più piccola da Babbo Domus. Ci, okay, schiaccia, picco, baby! Subiamo danni, visto che hai messo di me. Salla! Ma noi come, cioè, tu come, che idea hai nei confronti di questo tizio? Il mio signore, padrone. Vabbè, ci ha proposto una roba figa, andiamo. Io non me la ricordo. Cosa c'è. Magari ne parliamo così. Aspetta, l'unica parte di GDR della sessione 22B non me la ricordo. Era un giro di parole per cercare che tu mi dicessi. Io penso che sia un'ottima opportunità andare a scoprire qualcosa in più su il lato scuro, lato chiaro. È bellissimo. Più lato scuro che lato chiaro. È bellissimo essere criptici e tutto, ma. No, questo lo stanno dicendo. No, lo so, però è comunque incapibile anche per chi ci ascolta. Credo. Beh, certo, ma chi ci ascolta avrà ascoltato la puntata. Sì, io non mi ricordo. Lui ci aveva proposto di riequilibrare la andare nel pianeta, no? Nel tipo. Nel pianeta, cos'è che c'era di figo? Non vi aveva spiegato esattamente per andare, beh, a cercare qualcuno. Ok, noi non lo sappiamo, però magari l'ho spiegato. Comunque, lo stesso. Appunto, ben trovati, ragazzi. Chi è il vostro amico? Stai calmo, Vez. Lui è. Questo qua si chiama in game. Allora, prego. Lo shuttle a terra. Si uniscono i due boccaporti. Il sacro vincolo. Si aprono. Salite voi o scendono loro? Scendiamo noi. Scendiamo noi. Voi scendete. Io entro dicendo, me la ricordavo messa meglio la nave. Anch'io. Il tizio non fa per scendere. C'è il scio che funziona. Il tizio sta su. Com'è che si chiama il tizio? Zarkar. Ah, è vero, Zarkar. Bella nave, ragazzi, complimenti. Sì, ma non è nostra, è del nostro collaboratore. E chi è? Si chiama Zarkar. Vabbè, sì. Penso che parla a lui. No, era stato praticamente mentre ci stavamo dirigendo io e Sal a fare io e Zoln per distruggere le torrette e uccidere Kyle. Siete riusciti? Contro la mia volontà. È successo. Non volevo ucciderlo. No, l'ho ucciso io. Nella foresta c'è intervenuto questo Jedi. È un Jedi, no? No, non è un Jedi, Io ho percepito il suo utilizzo della forza, ma non so se sia un Jedi. Tu sai che sembra che sia in equilibrio. Espande calma. Espande calma. È tipo un ambiente di azepina gigante. Espande calma. E praticamente lui sente che vicino a lui c'è calma, c'è pace. E lui è interessato a noi, è interessato perché ha detto che secondo lui. Cioè sono più da sono tipo da riequilibrare delle forze. Sì, ha detto che voi come gruppo siete in. Ma noi come gruppo siamo da riequilibrare. Siamo in squilibrio. E bisogna riequilibrare le forze. Vabbè, insomma, la morale è che ci propone. L'equilibrio che ci proponeva lui era che Salla diventasse il più malvagio e io diventassi il più buono. Lo dobbiamo dire per forza. No, questo è fuori dal game. Ha due opzioni. Ma questo non glielo dobbiamo dire per forza. No, quello che vi diciamo è. Che abbiamo trovato sto tizio, si chiama Zarkar. Secondo lui. Allora, fermi un attimo. Ok, facciamo la conversazione. Abbiamo trovato questo tizio qua che è il proprietario della nave di sopra. Si chiama Zarkar. Okay. E ci ha aiutato nella nostra parte del piano. E in realtà no, però vabbè. E perché? Supporto morale. Beh, in realtà sì, visto che ha praticamente da solo fatto perdere un po' di turni a metà dei soldati sotto. Che era il vostro piano? Ah, perché noi alla fine, voi ci avete salutato fondamentalmente e vi abbiamo perso. No, in realtà mentre scendevo... Non si sta a fare l'accampamento aereo. Sì, esatto, noi in realtà noi siamo stati colpiti e quindi il motore si è danneggiato, l'avevamo colpita bene, era messa molto male, però poi un cannone ci ha colpito e ci ha rallentato e non potevamo più raggiungerla, che comunque era più veloce di noi anche di base. Noi avevamo detto che avremmo distrutto i cannoni e ucciso il tizio e sorpresa sorpresa abbiamo distrutto i cannoni e ucciso il tizio. Bravi. Grazie. Ottimo lavoro. Bravi. Ma anche se, certo, se l'avessi distrutti prima sarebbe stato meglio, però ci sta. Malmeno. Avete fatto quello che potevate. A quanto fortunati. Pare per Giulio due passi nel bosco sembrava che avessimo dovuto. Chi è questo Giulio? Beh, in realtà... Allora gli dico, praticamente abbiamo scoperto che la foresta in cui stavamo correndo era una specie di tapirulana. E ce ne siamo accorti dopo. Va bene, ragazzi. In realtà prima di così non c'era tempo fisico per avvicinarsi. Okay, ma quindi io non ho capito, sto Zarkar chi è e da che parte sta? Allora, questo Zarkar non sta da nessuna parte, è tipo inter partis. E ci ha proposto... Oserei usare il mio ungherese contro il tuo latino. e ci ha proposto una sorta di missione che abbiamo deciso di accettare, almeno io ho deciso di accettare, di andare in un pianeta Corriban. Ah, è vero. Corriban. Non è tipo il santuario dei Sith? Sì, è l'antica capitale dei Sith. Di andare in un pianeta che racchiude conoscenze sui Jedi e sulla forza molto antiche. Facciamo parlare Zol, sentiamo cosa da dire e poi arguiamo. No, la mia domanda è se nella cultura generale questo nome evoca qualcosa. Ah, vabbè, quello puoi fare un tiro, ma adesso intanto sentiamo cosa da lui dire. Lui ci ha detto di seguirlo in questo pianeta perché ha bisogno di aiuto e perché ha intenzione di educarci, completare il nostro addestramento. Ah, sì. Parvi da nave scuola. È un modo educato e carino per dirlo a loro, babbani. E... È una cosa importante per voi, immagino. Per quello. E quindi io avrei deciso di seguirlo. Non vi vedremo. Io avrei deciso di seguirlo su questo pianeta per aiutarlo e magari trarne conoscenze e vantaggio. Ma quindi anche lui è abilitato all'uso della cottura o della forza? Sì, infatti, solo che siccome io non sono riuscito a leggere, chiaramente il suo allineamento, mi fido di lui, ma non totalmente. Quindi se anche voi riusciste a seguirci su questo pianeta e a seguire, magari a darci un occhio... magari ci sono cose anche più interessanti, oltre che il semplice addestramento. Cioè, ci può stare, c'è un problema tecnico, immagino che questo pianeta sarà un po' come l'altro pianeta dove avete trovato cose interessanti per voi, cioè un pianeta tipo pieno di vegetazione. No, non sappiamo niente di questo pianeta, però, le conoscenze della forza danno un aiuto a tutti, nel senso che comunque la forza permea ogni cosa. Io non ho nulla contro le conoscenze della forza, il problema è che, come avete visto, noi abbiamo la nave messa abbastanza male. Beh, ma si tratta di arrivare lì, atterrare e continuare a piedi. Forse sarebbe comunque opportuno magari prima fare un passaggio da Tron per farci spesare in qualche modo per quello che abbiamo fatto. Cos'è, l'oro? Cioè, alla fine quello che abbiamo fatto... Ma Tron non ci ha promesso soldi, o meglio, ci ha già pagato per quello che noi abbiamo fatto. Dovremmo chiedere la paga ai licertolori. Posso provare io. Cioè, di fatto Tron ha detto, andate là se avete voglia, intanto vi do sta roba. Ciao. Lui ci ha dato qualcosa, però ha detto che poi sarebbe stato grato con noi, magari ci aiuta a rimettere a posto grato, la nave. Però non abbiamo un accordo, ok? No, però magari possiamo chiedere se ci dà una mano a sistemare la nave. Non lo so, tutto devo parlare con Zarkar, se no al massimo ci raggiungete là. Anche quello che non ha. Sì, attualmente possiamo anche fare così. Però giusto perché cioè, se lui poi ha, a meno che lui non abbia delle conoscenze anche lì per aiutarci, in quel caso va benissimo lo stesso. Lui non è che ci aiuta da questo punto di vista, perché noi atterreremo nel pianeta e poi non ci servirebbe più la nave. Però lo tiro senza lo conoscete voi, magari vi dà una mano lo stesso. Vabbè, se non ci può dare una mano, 10 minuti prima di te. No, lo so, se non, siccome mi sembrate pappa e ciccia. Se non ci può dare una mano, però c'è quel problema lì. Nel senso, sì, no, ma quello che dico è che non ci serve la nave per fare questa cosa. No, so che non serve a voi, ma serve comunque a noi. Sì, ma sarebbe un vero mezzo di trasporto. Sì, per voi. No, cioè arriviamo lì al pianeta, atterriamo, facciamo le nostre cazzate e poi andiamo a riparare la nave. Sì, cioè io ok, cioè tu sai tutto di questo pianeta, sai esattamente cosa troverai eccetera? No, però la nave servirebbe a allora. Un pianeta? Sempre meglio avere la nave che funzioni in modo adeguato, diciamo. Vabbè, Salla, se no possiamo continuare noi con detto che ovviamente è una decisione che magari prenderemo insieme. Per me non c'è nessun problema a seguirvi lì se avete bisogno del nostro aiuto o comunque della nostra presenza. Però il discorso è che abbiamo questa cosa della nave. Cioè, adesso non so se Darkar ci può dare una mano, però se sì, no... Ma quello che dico io è che la nave non ha l'influenza, quindi se si ripara dopo... È uguale a ripararla adesso. No, però magari tu ma magari non sai. Si dice però che se ci arriva un colpo con la nave messa male. Tu non sai. Cioè, nel senso, tu, ok, magari ti fidi di questo Zarkar in modo cieco e disinteressato. Ma il pianeta è disabitato. Non si sa. Ma ho capito, ma noi già altre volte siamo andati in pianeti disabitati e ce la siamo poi vista male, ve lo ricordate? Sì, però non abbiamo usato la nave. Che viene chiamato Mobile. Su Atis siamo andati e poi dopo siamo stati colpiti nell'orbita. Cioè, nel senso, abbiamo molti nemici nella galassia. È meglio, se possibile, prima avere la nave a posto, perché poi non sappiamo cosa può succedere. Questo dico. Solo il nome di adesso. Perché se no... Siamo stati colpiti perché dovevamo, in effetti... Sistema siamo stati colpiti in un attacco che non ci aspettavamo. Cosa che può capitare ovunque. Sì, ma lì dovevamo salvare della gente... Per non è un pianeta. Io sto semplicemente dicendo che siccome andiamo in un pianeta che non conosciamo, è meglio non andare con la nave. Ma devi dire cose che non conosci, fai il tiro, che magari scopri qualcosa di più. La zona non mi dice niente. Magari scopri se è abitato, magari no, ma a prescindere, cioè comunque è un pianeta che comunque anche se non conosco, era una zona delimitata e ci trafficava all'intero, ma cosa sai di cosa sai? Ecco, lo chiamano Corriban per quello. Hai saputo Corriban. Qualcosa su adesso si tanto. Chiama Moraband è quello che hanno usato loro. È il nome antico. L'unica cosa so dov'è. Ok, l'unica cosa che so è che quella era una zona dove bazzicava anche l'impero una volta, in sostanza. Ma non vuol dire l'impero bazzicava una volta lì. Sì, però parliamo di antichità, praticamente, nel senso una vita fa, quindi potrebbe non voler dire niente questa informazione. Cioè, non era un pianeta imperiale, tu sai che però l'impero ogni tanto c'erano delle imperiali che arrivavano, ripartivano. Allora era simpatizzante impero. Possiamo dire così, ma un po' dire, cioè sai solo che l'impero non aveva qualche interesse. Va bene, io anche noi siamo simpatizzanti l'impero. Io flippo e praticamente ho sentito parlare di questo pianeta nel corso dei miei giri per le taverne da gente un po' più oscura e gente che parlava appunto di vecchi obiettivi imperiali e diciamo legati anche agli Jedi, cose tipo leggende eccetera. Scegli un po' tu le informazioni. Un pianeta abbandonato, non ci va nessuno. Ho un'idea, per quello che ne sai è disabitato. Ok, ho flippato, dammi un... questo è la ma tipo idea. L'impero lo cercava perché? Perché cioè, dammi qualcosina, ho flippato, se no... però il problema è che l'ambientazione è già scritta, Vez. È un'ambientazione... Cioè, non è che può dirti più di quello che è già stato scritto. Se no dimmi, non puoi flippare, se no dimmi. Il problema è che lo so, ma è già tutto scritto, hai capito? Cioè, quello che può dirti al massimo Giulio è una rotta sicura per arrivarci. Boh, vabbè. No, ti ho detto, sai che è disabitato, cioè per quello che ne sai è disabitato. Quindi non c'è una razza che popola questo pianeta di particolare, diciamo. Boh, ho capito, ma... lo so, ma cioè, nel senso... Cioè l'unica cosa che può dirti è appunto, non so, una rotta sicura per arrivarci, oppure... Boh, cazzo ne so. Vabbè. Dicevo, no, un'idea. Se sai, che sai che la gente lo evita e spesso chi ci va non torna. Ma lo evita perché? Se chi ci va non torna, non torna, ma tipo qualcosa, qualche tipo leggenda l'avrò sentita. Tipo. Si dice che, che ci sia, che non sia poi così talmente disabitato e che oscuri fantasmi popolano le rovine. Ok, così. Vabbè, già questo è qualcosina. Va bene, non sembra un pianeta molto amichevole. Meglio avere una nave che comunque funzioni, che ci possa far scappare. Ma tanto, cioè, vabbè, la nave si. Vabbè, quello che dico io è la nave si sposta lo stesso, vabbè, però vabbè. Non c'è problema, facciamo così. Ma se magari voi parlate col vostro amico Zarcaro, ce lo fate conoscere, e magari possiamo, lui ci può dare delle coordinate o una rotta per farci arrivare. Ho un'idea, esatto. Noi aggiustiamo la nave e chiudiamo l'accordo con Trandoshan. Esatto, voi andate da Thorn e intanto noi andiamo di là. La cosa più sensata. Poi Trandoshan però, rega, non credo che noi riusciremo a... Cioè, cosa più o meno, vabbè, stiamo cosando a dirci. Ah. Ci diranno almeno grazie o un crepate o arrivederci grazie. Quanto dista? Arrivederci grazie. Morban. Ah, e poi io dico anche a voi, guardate che lui usa il nome antico. È una cosa un po' particolare, secondo me. Sì, che nome è usato? Lui ha usato Corriban, in realtà è Morban il nome odierno. Quindi è un'altra cosa un po' particolare. Diciamo un settore di distanza. Appunto, ma no, è perché nella tradizione dei Sith, cioè nella tradizione dei Jedi, è probabilmente. Sì, ma in teoria voi non sapete neanche che è un Jedi lui. Ah, sì, io sono sì, sì, sappiamo che usa la forza. Io avverto che usa la forza. Però non è un Jedi e non è un Sith. Non è un Jedi né un Sith, dovrebbe essere uno che ha zero, o no, che ha 50-50, quindi non puoi definirlo, magari non so. Capito? Sì, ho capito. Cioè, sappiamo bene, che allora si usa. Ha avuto un addestramento. È un grigio, è un grigio. Forza, potrebbe esatto, essere... sappiamo che è un force user, ma non sappiamo. È quella rincoglionita del nuovo film di Star Wars, che non è una vaga, ma sa usare la forza. Sì, a cazzo. Decisamente non è come... non è un Jedi, però lei... No, è no. Come... però lei non ha proprio neanche ricevuto addestramento, per quello che ne sappiamo adesso. Sì, è quella di... È tipo la donnina di Force and Destiny. No, di... Come cazzo si chiama? Di... Ah, è tipo un po' il monaco di Rogue One. No, quello del videogioco. Ah, Kreia. Sì. Di Knight of Old Republic. Esatto. Esatto. Vabbè, allora sì, andate voi. Ma il monaco però lì, quello di Rogue One, usa la forza di un Jedi. Ma non usa la forza. Cioè... Non usa proprio la forza, cioè lui ha fede, però non è che devia prende oggetti. Sì, però sente qualcosa un po'... Sì, diciamo che sicuramente come la anche forza lo aiuta a vedere. Come anche Han Solo, quando tutte le volte che dice ha una brutta sensazione, è perché è un force sensitive. Sì. Sì, sì. Ragazzi, se avete bisogno di cure da parte di Shuno? Recuperiamo. Prendo poi l'incontro. Sì, no? Dovete andare. Ma aspetta, fermi un attimo. Se viaggiamo, stiamo qui magari anche 2 giorni e non stiamo, cioè nel senso, ci recuperiamo nei giorni di riposo. Adesso vediamo, già imparato il Trandoshan. Giulio, quanto ci siete per arrivare a Corriban? Vabbè, sia che rimaniamo qui. Tendenzialmente non tantissimo. Nel senso, sia che rimaniamo qui. Una settimana. E poi viaggiamo, sia che viaggiamo, recuperiamo. Possiamo incontrarlo, questo Zarkar? Non c'è problema. Zarki! No, dico, Zarkar, puoi conoscere il resto dell'equipaggio della Nababbo Donosor? No. Sono un personaggio Giulio. Questo non era neanche un personaggio Giulio. Perché? No, beh, Shane, visto che l'avete chiamato Shane. E improvvisamente tutti quanti siete senza ansie, calmi. È vera questa cosa? Come Prodi. No, voi non percepite particolari. Come Prodi. Come Prodi, che l'ha detto? Quello di Prodi. Che c'ha l'anello con i tortellini. Con la mortadella. Piacere, vedete che è uno Zabrak? Che cos'è? Non è uno Zarkar. No, Zarkar è il suo. Una zebra che è la razza. La razza è quella di Darth Maul. Okay. La pelle è marroncina. Come la razza di Termol? Non l'hai detto? Sì. Ma è palesemente cattivo. Cioè, rosso, nero, con le corna, è buono. Non è rosso, non ha i tatuaggi rossi e neri. È tatuato. Ha una pelle, ha la sua pelle normale, che è marroncina. Mm. Ha qualche tatuaggio. Ha il corno, però. Rosso e nero. I corni, c'è tutta la razza, i cornini. Vabbè, però è cornuto. Già. Insomma. È mazzino. Beh, basta guardargli le gambe, sono di latta e Dartmoor. No, ok. È a torso nudo, ha delle fasce tipo pugile o monaco nei polsi, e ha una veste che... Non ha una spada laser. Non la vedete, se ce l'ha non lo sapete. Beh, se ce l'ha, se ha la cintura... Non ha nulla di armi visibili. Non... Zarkar, è un piacere fare la tua conoscenza. Speriamo. Mi sia un piacere. Tagliare la testa se solo si levasse più alto dal suolo. I nostri amici Idobone e Zol ci hanno detto che amici. Li vuoi traghettare in questo pianeta un po' sperduto. Sì. Credo che sia utile per loro e anche per me. Perché per te Zabrak? Zork? Zark? Perché Corriban è stato di antiche conoscenze e la conoscenza ci sei mai stato? Io una volta da Bracco Bava. Che posto è? Ce lo sapresti descrivere? Una landa desolata. Ma che cosa vai a cercare in una landa desolata? Conoscenza. Perché usi il tuo nome antico? Si chiama Corriban. Si chiama Moraban. Si chiama Corriban. Moraban. Corriban. Vabbè, il nome odierno. Usa Moraban. Adesso lo smonta. È la storia. Vabbè, perdona il nostro droide. Perché non ci racconti la tua storia? Non ci racconti la storia di questo pianeta? Siamo curiosi. La storia. Non, nessuno di voi. Cioè, a parte Zoln e Idoborn. Questo è razzismo! Non è Idoborn, non è razzismo. Idoborn! Idoborn. E nobody, Idoborn. E nobody al contrario. Nobody cam. Mia... Questo è un altro meno per... A me gli hanno conflitto. Sì, no. No, ma è giusto. Comunque, no? Se non sai come chiamare il vostro maestro, per me Adoy... È vero, c'è un cazzo come del maestro Adoy. Per me è perfetto. Yoda, si è capito. No, per me era perfetto. Siamo curiosi di sentirla questa storia morto. Del pianeta. Per un nome, visto che è morto. Se non la no, non si chiama più. Al massimo si chiamava. Vabbè, nessuno di noi la sa. No, io sono curioso perché ha cambiato. Perché hanno cambiato il nome. Aspetta, Idobon e Zon l'avevano comunque già sentito nominare. Beh, non fa parte della loro formazione. Beh, non ne hanno parlato con noi, ma non ha importanza. Sì. Zarkar. Il pianeta, quando beh, in realtà te l'ho detto, è un pianeta antico pianeta. Più o meno cosa ci aveva detto che c'è Sith. Si dice che sia un pianeta. Il pianeta della capitale dell'impero Sith. Ah, loro lo sanno. Loro... Sì, te l'ho detto l'altra volta. Non mi ricordo, Salem, se sei si anni. Dice che sia un pianeta, diciamo, da cui tendenzialmente non si fa ritorno, dove aleggiano antichi spiriti malvagi. Per chi va a disturbare alcuni posti non c'è scampo, e soprattutto per chi va lì volendo derubare senza essere pronto a pagare. Bene, Zarkar, vedi i nostri... Pagare per derubare. Cioè, va lì per derubare. I nostri collaboratori qui ci hanno, o amici, o quello che sono, ci hanno chiesto di seguirli. Civili, so. Tu avresti qualcosa in contrario a questo? Sì, crepare. E tuttavia, come vi facevano... Non entrerebbero nei luoghi, nei tempi... Come gli facevamo notare, e come sicuramente avrai notato anche tu, la nostra nave necessita di urgenti riparazioni. Sarebbe quindi... Non è un meccanico, se lo dite... No, vabbè, è cacoglione. È Yak. Non ha notato particolarmente. Ah, ok. È Zari Yak. È messa male, però lui non è che ci faccia troppo caso. Beh, gliene frega un marone, della tua nave. Non sono un meccanico. Coglione? Io non saprei, non saprei cosa fare veramente. Brutto coglione. Se vuoi un bypass gastrico, che cazzo vuoi? Me ne faccio tre, cazzo. Non ho offeso nessuno, sono perché non è un cane. Va bene. Non se ne intende. Vabbè, il mio amico voleva dire che noi magari temporeggeremo sul pianeta fino a riparazione della nave avvenuta per poi raggiungervi successivamente. Volevamo sapere se magari se aveva qualche cazzo droide, parla come Baby Loli. Per riparare la nave. Nel caso non fosse così, se ci può almeno dare delle coordinate o qualcosa di sicuro per poter atterrare poi lì. Okay. No, nel senso che lei, tu Zarkar, dicevi che cioè se uno va per disturbare rischia. Come si fa a far capire che non si è lì per disturbare? Credo che sia meglio che voi veniate direttamente con te. Sì, però come... Se volete... Lo so. Essere sicuri. Diciamo. Come, sì. Però come ti ho detto noi avremmo bisogno di riparazioni, puoi attendere, non è meccanico, smettila, no, nel senso, no, questo è andato di fatto, o andiamo insieme da qualche parte sulla strada e facciamo comunque un minimo di riparazioni di base, oppure non so, ci saranno delle stazioni di servizio certo. Ma cos'è? Tipo autogrill. Concedici almeno una giornata di lavoro. Una giornata di lavoro, certo. Non so cosa cambi, però a livello pratico poco, penso, per i danni che abbiamo. Però, ma sono così devastate? Abbastanza. Ti ricordi l'altra volta che sono tipo dei mesi? La Navabo Donosor, no, per ora, mesi, no. Su 32 ha 32 danni. E ha due critiche. Infatti, posto. Riga, cioè, sono messi, sono non sono riusciti neanche a volare. Se hanno riparati due al giorno, due a testa loro, vuol dire che c'è anche la possibilità che la nave non serva, no? La nave sul pianeta non serve. Sì, quindi, ma come serve per arrivare? Il discorso è che comunque sei, metti caso che c'è una qualsiasi sfiga, che una nave nemica, un cattivo ci insegue, ci spara, c'è una scorreggia. Il problema ce l'abbiamo comunque. No, vabbè. Ah, però sei riparato. Sì, ma adesso a muoverci e spostarci verso Tron. Capisco che tutti i figli di questo tizio, però noi no. Nino, che l'abbiamo appena conosciuto, quindi noi viaggeremo meglio con la nostra nave. Noi capito, dobbiamo anche io e Salla siamo più interessati alle conoscenze, ma anche di lui non è che ci fidiamo così. Quindi viaggiare tranquillo. No, quello che dico io è che in pratica il problema è lo stesso, perché spostarci da qua a Tron o da qua a Corriban, il problema è comunque lo spostamento, quindi una volta che sei sul pianeta parcheggi. Non lo so, Zarkar, ma c'è infatti l'idea è di aspettare qui e ripararla qui e poi c'è la possibilità di aspettare, fanno i cazzo di tubi e si fumano le canne con i buchi, attiva di darci una sorta di password o quella che è per poi raggiungerli. Io vi posso dare le coordinate e dirvi dove atterrare con la nave, non ci sono password. Se atterriamo lì abbiamo sicurezza di non essere... Se non siete con me, no. Ah, ok. Quindi praticamente ci stai dicendo di no. C'è modo di contattarti in orbita? Diciamo che lì c'è meno... Per quanto... non uso i cellulari. Per quanto sia un protocollare, quindi non so, tecnicamente a livello di istinto il mio se personaggio... Se qualcosa, però l'istinto del mio personaggio è di non andare su questo pianeta. Non è l'istinto, sei un inutile macchina. Lo so, non se so, noi arrivassimo... Sì, si può provare, di solito le comunicazioni... C'è la sensazione, però, oppure... Brutto bullone! La percentuale di riuscita col successo di questa cosa la vedo bassa, quindi... Il mio personaggio tentenna, proprio non vorrebbe andare. Posso aspettare che facciate delle riparazioni. Io parlo con il mio capitano. Ovviamente, se voi dite che i danni sono così gravi, non posso aspettare mesi. No, questo non questo... ha neanche senso. Tanto vale che andi a noi e poi li raggiungiamo dopo. Questo capisco. Ma magari. No, ma se sono tipo se sono 4-5 giorni, secondo non me lo so. Fattibile. Vabbè, adesso domanda. Io ancora prima questa cosa. Che so cosa ha fatto questa nave. Più o meno riesco a capire quanto tempo ci vuole. Cioè, parliamo di un giorni. Un porto ben attrezzato, una settimana, ma devi essere nella. Sì, in sta merda di dei Wookie dove vogliono restare loro. Ma Sal, magari la fanno di legno. Ma Tron è probabile. Sì, ma quello che dico io, Vez, è che il viaggio da qua a Tron è rischioso come il viaggio da qua a Corriban. Tanto vale andare da qua a Corriban e poi. Corriban sicuramente allora, non c'è un porto out of game. Io Va bene, non è tanto il viaggio, per quanto anche il viaggio ovviamente è rischioso, ma io personalmente, io poi è chiaro che se Katta, che è il capitano, prende un'altra decisione, io poi vedo come fare, ma io personalmente non mi fido di andare in un pianeta del genere con la nave messa così di merda. Ma tu stai andando in un pianeta deserto per uscire da un pianeta deserto. Sì. Ma non è così per me. No, è così che l'ha detto lui. Tu hai fatto un tiro di conoscenze, quello che sai di quel pianeta è che è deserto. No, io so il piano 91 tra parentesi 40. Io so. Fermo un attimo. Sono fermo, non mi sto muovendo. No, perché ascoltami. Io quello che so è che quello che si dice è che sia deserto, ma so che uno, ci sono queste leggende che dicono che chi ci va non torna. Uno. Due, lui mi ha appena detto che chi va lì senza di lui rischia. Quindi sì, ma no, rischia nel pianeta, non in orbita, Sì, ma io mica voglio stare in orbita. Ma il problema non è la nave, il problema è quando tu scendi a terra che metti il piedino in una buca di una fossa di un Jedi, un Sith, e lui ti mangia la faccia. Sì, ma io questo non lo posso sapere. Sì, devo dire gli animali fossori, no? Io questo sono non lo posso sapere. Voglio avere la nave. Sì, ho capito. Io, allora, ok. Siccome voi non mi dite niente a riguardo, io semplicemente so che è un pianeta dove probabilmente, non di cui so poco. Non è quello che sappiamo, non è quello lì, A parte voi sapete altre cose che non ci avete detto, ma fa lo stesso. No, in realtà noi sappiamo solo quello che ti abbiamo detto. Sì, no, l'unica cosa che non, non ti abbiamo detto è che è il luogo dei Sith. No, voi sapete che è il coso dell'impero Sith, eccetera, cosa che non ci avete detto. No, non c'è un impero Sith e noi non lo sappiamo. No, in realtà non c'è un impero Sith. Vabbè, per una importanza, io quello che inferisco è che è un pianeta pericoloso, comunque. Non so come, non so quale sia il pericolo. No, però lui ti ha detto che è pericoloso a terra, non pericoloso arrivare lì. Io intanto questo qui non lo conosco. Cioè, okay, non vabbè, sapete raga, io non mi fido. Mi sta bene seguirmi, ma non con questa cosa così. Cioè, per me è così. Poi è chiaro, perché lui ti ho proposto, noi andiamo lì e voi andate da Tron. Però il problema è questo. Secondo me, io il problema che ho adesso è che io non so se posso dire Tron a lui, capisci? Quindi io quello che proporrei è questo. Se voi ci accompagnate fino a un certo, cioè possiamo rivederci. No, lo diciamo noi, lo dico io, l'ho detto in gioco prima. Andate voi da Tron e noi andiamo da Corriban. Ma se invece noi andassimo da Tron, facessimo riparare la nave e poi ci ribeccassimo. Io non porto tizio da Tron che Tron ci stupa. No, quella è da un'altra parte. Noi ci andiamo da Tron. Noi se la temporeggiamo quei giorni che loro riparano. Ripariamo la nave e poi ci ritroviamo e andiamo. Il fatto è questo: cioè la missione. Allora, Sala non ti cambia. No, però piano. Se non lo vuoi fare, no. Però. No. Allora, out of game ha più senso perché stiamo uniti, eccetera. Ma in game, se voi avete tipo 2 settimane di riparazione, la nostra missione dura 2 giorni su sto pianeta, ha senso che noi intanto andiamo lì e poi ci ritroviamo. Io lo facevo per. Allora, io vabbè, non sono il capitano della nave, quindi devo sentire, so anche Katta cosa vuole. Scusa, dimmi che io con la nave messa così. No, meglio dico chiaramente. Allora, anche in game, dico io personalmente. Ovviamente se il capitano vuole portare la nave, se il capitano vuole portare la nave lì in queste condizioni, va bene. Io però personalmente non mi fido. Quindi nel caso lascio. Perfetto, ha senso. Per cui possiamo andare noi e poi voi al massimo. Per me è disperata qualcosa, onestamente. Mi sembra una follia. Ma hai ragione, per quello io dico. Un pianeta sconosciuto e pericoloso con la nave distrutta non ha senso. Aspetta, zitti. La mia soluzione è abbastanza semplice, nel senso che noi dividiamo un rendezvous vicino a Corriban e andiamo a riparare la nave, ci ritroviamo a rendezvous e poi andiamo e questa a era la mia proposta però lo so, l'operazione sul pianeta più o meno durerebbe una settimana E se la riparazione dura una settimana tanto vale che intanto noi andiamo, facciamo la roba e ci vediamo dopo. Lo so che out of game ha poco senso, però in game è così. No, va benissimo. E diciamo che siete stati voi a chiederci comunque se poteva andare con voi, cosa che a noi andava bene. Però non possiamo andare. Ma se ci mettiamo lo stesso tempo materiale a fare la cosa e aspettare voi, tanto vale che ci vediamo dopo. Nel frattempo vedete che lui si siede e si mette tipo a meditare. E vabbè. Io entro un po' subito, dico aspetta, Zarchi. e gli dico la missione che, abbiamo, che eventualmente facciamo io e Zold. Sì. È rischioso per loro se dovessero seguirci o può avere un senso il fatto di portarli con noi? Non sono... Cioè è più una palla al piede che non sanno che cazzo fare, quindi rischiano solo di fare del bordello. Vabbè, sono responsabili delle loro azioni, quindi se... Considerando le loro capacità, la prima. Cioè? Cosa che hai detto, è l'unica cosa che hai detto finora. Cioè non sappiamo cazzo. Sì, fuori dal gioco. Voi non siete utilizzatori della forza, lui vi considera in questo modo. Ma capite, è comunque un pianeta, Giulio, non è che ci sarà. Sì, no, certo, ma dal nostro punto di vista, Arci, loro ci sono una risorsa perché ci aiutano a sopravvivere. Qui ha chiesto se loro... Però il tizio lì pensa che loro siano degli inetti e che non sanno fare un cazzo. Cioè, se ci volete, noi proviamo a esserci, però non con la nave in queste condizioni. Se non ci volete, ci lo vediamo. So, ma io ti dico... In ogni caso, il discorso è che mettiamo caso che io e te andiamo sul pianeta, no? Mm-hmm. Con Zarkar facciamo quello che dobbiamo fare. Mm-hmm. Mettiamo caso che poi comunque dobbiamo congedarci da Zarkar. Noi dobbiamo arrivederci e grazie. In qualsiasi modo ci dobbiamo congedare, sia pacifico che non pacifico. Poi in qualche modo dobbiamo uscire da quel pianeta. Quindi una nave comunque ci serve. Era lì che volevo arrivare. Se dove Zarkar vi lascia e noi siamo siamo equipaggiati con loro. Se Zarkar poi magari fa finta che prima di essere con loro e siamo con loro da tipo 2 mesi, 3 mesi, eravamo solo io e te e andavamo comunque in giro io e te. Sì, ma non su un pianeta abbandonato. In realtà sì. Loro prendono le loro decisioni. Se ci vogliono con loro, noi ci stiamo, però non con la nave in queste condizioni. Molto semplice. Se riusciamo a fare, ad esempio, come via di mezzo, tipo una settimana di riparazioni, e come è messa la nave, se in quella settimana la mandate 10 HP e a voi va bene, sì, va bene come via di mezzo, e a Zarkar va bene, e a Salla va bene, a me va bene, si può fare. Va bene, allora ci diamo un incontro tra una settimana in questo pianeta che sta vicino a Coso. Vabbè, un pianeta X. Fronzul. Andiamo. Fronzul non è vicino ancora. Scusa, vado in bagno. Anch'io. Poi, no. Beh, ce n'è solo uno. Se ti ricordi bene, Fronzul era Spazio Ribelle. Anzi, una luna ghiacciata. Non sai il paese di pianeta che viene. Sì, ma scusa, cioè nel senso non lo dico con cattiveria, ma pensaci, se la missione dura una settimana e la riparazione dura una settimana, è ovvio che ha senso che noi le facciamo mentre voi riparate e ci vediamo dopo. Vai in bagno! Salla. Con voi l'aspetto una settimana, se no basta che noi comunque dai nostri studi Jedi sappiamo che è un pianeta Sith, ex pianeta Sith, ora disabitato, però comunque che ha detto Giulio... Che siccome si facevano esperimenti strani, possono esserci cose un po'. Sì, ma due cose. Uno, a me va solo che bene. Due, il tizio era nostra guida. Ti va bene se metti il sito. Però Giulio ha detto che ci sono degli animali strani. Ma lui era la nostra. Noi siamo quella guida. Dipende. Comunque adesso non è più il 4 maggio, quindi non è più lo Star Wars Day. Quindi giochiamo a Urban Heroes. Uscite di prigione. E siete in macchina. Va bene, allora ci becchiamo. Arrivederci e grazie. Come hai detto? Arrivederci e grazie. Ah, ok, allora dobbiamo ucciderlo. Guardiamo e non c'è alternativa. A quel punto noi stiamo discutendo, ci voltiamo verso Zarkar. Perché Zarkar mi dispiace, mi stai simpatico. Stai simpatico, grosso errore. Velocemente andiamo a sentire, sentiamo a che punto, come stanno i lucertoloni. Ma no, facendo. Perché cosa abbiamo... tipo ci daranno una ricompensa per il servizio che gli abbiamo fatto. Però ogni possiamo tanto provare. Fare un tiro. Il servizio gli hai fatto. Quanti... Però è meglio se qua almeno uno degli Jedi che può controllare la mente venga con noi. Sento delle variazioni. Solo io posso, quindi va bene. Vieni con noi, così li curlupiniamo un po'. Una cosa mia è sempre... L'unico momento in cui ha senso diverso è quando nel bunker. Ah no, però anche Arci ci serviva, che faceva le magie, gli faceva paura. Di soldati non posso farlo anch'io quello. Sì? Allora, posso, io propongo di congedarci, nel senso, se Zarkar torna un attimo su, parliamo in game, ci mettiamo d'accordo. No, no, ma ci siamo già messi d'accordo. Cioè, ci troviamo in un pianeta. Dopo, andiamo adesso deciso per la settimana. Prima andiamo adesso, prima cosa noi andiamo da Giulio, noi scendiamo sul pianeta e vediamo cosa, se riusciamo a turlupinare un po'. No, Trandoscia, credo, no? No, boh, se il generale di merda è su Kashyyyk, andiamo su Kashyyyk. Adesso vai, diciamo che a fine battaglia. Sì, a fine battaglia raggiungiamo. Vediamo, esatto. Okay. Vediamo se riusciamo a turlupinarli un po'. Dopodiché andremo noi da Tron e loro ci aspettano in questo paese che si chiama, questo pianeta che si chiama Zio-st. Io lo chiamerò Zio e basta. E vabbè, gli abitanti di Zio potrebbero averne male. Quanto tempo? Una settimana, quindi. E ci danno una settimana per vedere cosa riusciamo a fare. Poi magari arriviamo lì, Tron ci dice: cosa avete fatto? E ci spara e ci uccide, e loro poi andranno da solo. Quindi, secondo me, con un buon in un buon porto, una settimana basta per aggiustarlo. Ma chi se ne frega, andiamo da sti Trandoscia. Anche però che costerà. Vai, intanto prima andiamo da parlare con i Trandoscia, dai, c'è anche questa cosa qua. Anzi, sai, soprattutto questo che costerà. Vabbè, immagino di una catta adesso. In cambio. Eccolo, appena catta servi tu. Ti puoi anche chiudere, ma magari ci vedi tra i trasmissioni, chiuditi la pasta. Ma io mi sa che vado... Oh, grande. Non so, anche tu devi andare. No, come orari, non so, vogliamo fermarci qui. Sì, comunque facciamo un po', possiamo fare un'altra mezz'oretta. Sì, anche facciamo un'altra. Fai giocare sta roba catta. Che devo fare? Aspetta, allora che io prendo la mia roba e... Ah no, non devo prendere niente, giusto. Cosa succede? Non ho i dadi. Niente, lasciamo Sceo sulla nave, pessimo errore. Vabbè, è già successo a inizio sessione, non è finita bene. Anche se... Catta, devi parlamentare tu. Sì. E tu devi fare i trucchi mentali. E io mostro il cannone. No, pronto, chi fare... No, andiamo lì giù. È finita la battaglia, andiamo a parlarci. Okay, vedete che ci sono alcuni Trandoscia morti, Wookiee morti. No! Ci sono le navi sono quasi tutte intatte. Qualcuno ha qualche danno, ma non devi parlare perché i cannoni erano esplosi. Facile. Quindi insomma abbiamo fatto tutto noi. Io Giulio l'unica cosa che faccio tutto chi scusa? Poter fare anche noi siamo presi le legnate comunque per i Trandoscia perché potessero essere liberi tra l'altro quello che mi ha fatto più danni in tutta sta battaglia è comunque sempre Vez. Sei andato via perché avevi paura di prendere altre legnate. C'è la verità. No, tu non c'eri quella sessione lì, ma è stato Arci tocca prima a te o a me? E Arci a te. Allora sto indietro. E ha tirato il suo tronco di merda e dopo l'ho attaccato. Perché tra l'altro ha fallito nel tirare il tronco. Se non mi avrebbe stirato. 30 danni, un albero silhouette 3. Sì. Va bene, arriviamo tutti festosi. Vittoria, vittoria. I Trandoscia anche vi salutano. Ah, Giulio, intanto faccio una domanda a Zabrak. Zabrakar. E gli chiedo se secondo lui, anche sapendo appunto che è un pianeta Sith, eccetera, comunque se non essendo io un Sith posso comunque trovare qualcosa di interesse. Nella forza, anche un po'. Come non sei tu un Sith? E voglio fare, mentre gli parlo, però anche in base alla sua risposta, voglio farmi piacere di percepire intenzioni. Tu gli dici, non essendo io un Sith. Credo che se ne accorga. No, lo so, lui lo sa, però lui glielo dice esplicitamente. Sì. E gli dice, neanch'io sono un Sith. E io gli farmi percepire intenzioni. Ok. Esiste? Sì, sì. Come si chiama? Perception. Ah, Perception, no, era... Aspetta. No, credo che... No, c'è. Era tipo... Scaldare. C'è solo Perception. Secondo me è quello. Sì, c'è solo Perception. Perception è tipo la girare. Giusto. Secondo me è Perception. Perception, sì. Perception si fa anche per... Sì, si fa anche... sì, beh, certo, un po' per... Sì, ci sono quelli per provare le cose, ma l'unico per percepire... Vabbè, comunque cosa vuoi sapere? È sempre cambio. Ma è per capire se... O se mi sta mentendo, o se mi sta ragionando. Non ci sta mentendo e non ti sta ragionando. Ma fargli farla po'. No, lo sa indipendentemente dal tiro. Va bene. Cioè, ci sono delle cose che non importa che tiriamo. Beh, giusto così, in teoria lui ti dovrebbe dire le cose, tu gli dovresti dire di tirare, quindi... Ah, ci sta, sì, capito. Vedi, la nave mi si è rotta, la vado ad aggiustare. Ma se non deve tirare, ci sta. Salutiamo Sceo. Se vuole può ritirare. Ma... No, no, no, ma io sono d'accordissimo. Sei tu che dici di fare la prova. Metti la giornata. Ti ricordo che ho lavorato una giornata sulla nave. Poi se vuoi fare i tiri la prossima volta. Quindi... possiamo fare gli stessi. Salutiamo Sceo. Allora, improvvisamente vedete il droghe. Il droghe. Io padrone. Sommato stavolta. Ricordatevi. Usate il figlio denaro come volete. Ci darà. Sì. Ricordatevi di segnare l'exp che Giulio sicuramente ci darà qualcosa di esploratore, secondo me. Ah, sì, vabbè, in effetti avete completato la missione. Tre punti. Due. La missione giusta. Ah, ma tanto l'avete tenuta comunque. L'exp a voi ve la do sempre. Non come sal. Esatto. Esatto. Cazzo vuoi, anche io ve la do sempre ogni episodio in cui ci siete. No, semplicemente perché il manuale dice di far progredire tutto il gruppo. Se no, non lo farei. Come in qualunque gioco di ruolo. No, non è vero. In Urban Heroes si dice di assegnarla a ogni giocatore in quello che... E ci sta. Va bene. Detto Sceo, questo, il problema faccio... è che tu, insomma... Non ci sei. Faccio grandi feste ai prodi guerrieri. Ci vediamo sabato. Ciao Sceo, sì, ci vediamo sabato. Ma nella realtà non è nella realtà, esatto. No, ci sei. No, dovete sapere il prossima settimana. Non so, ma forse torniamo. Cosa facevamo di solito martedì? Cosa facevamo? Sì, boh, ah, ragazzi, se io ricomincio a tirocinio a Lugo, quando? Prossima settimana. Se un posto a Bologna non potevi trovarlo. Sì. Guarda, facciamo. Andiamo al sushi dopo il calcetto. Quindi se riusciamo a fare. No, 20 euro. Tipo i giorni weekend. Vabbè, adesso ne parliamo. Weekend o anche pomeriggio eventualmente. Anche pomeriggio. Ciao. Ma anche sabato pomeriggio, quindi domenica mattina. Vabbè, va bene. Mi unisco al festeggiamento per la vittoria e mi congratulo per la loro possanza. E... Non so, ho premuto un tasto qua pensando fosse la luce. La luce si è accesa, ma ho fatto anche un bip in citofono. La chiamata polizia quello. Non hanno appartamento. Okay. Ciao. Ciao. E cerco, come si chiamava? Scaldaggio. Ok, non lo trovi. Bene. Ciao, ho visto. Mi complimento per la loro vittoria e per l'onore che hanno conquistato. Sì, non ti complimentare troppo, che abbiamo potuto. Grazie. In effetti è stata una battaglia dura. I miei guerrieri sono stati valorosi. Ma abbiamo trovato degli alberi difficilissimi. Sì, dobbiamo ringraziarli per aver messo. Noi ci siamo schiantati contro, ma questi continuavano. Aspetta, adesso ringrazia noi. È stato un piacere aiutarvi. Bene, purtroppo però come anche voi. Bene, un piacere, ora una firmetta qui. Purtroppo ora però ce dovete pagare. Ora firmi qui e qui. Le nostre navi, avete modo di aiutarci? Potete andare su Trandoshan e farla riparare lì. Ma abbiamo però, sì, sarebbe bello. Purtroppo però non possiamo restare con voi per molto tempo. Brutti coglioni. Ok, quindi l'accordo che avevamo con lui com'era? Nessun accordo, digno! Quindi non credi sia una buona idea ricompensarci per quello che abbiamo fatto? Ah, vedi, il malvagio, bravo, sì, così. Vi ha mandato Trauma, sarà lui che si deve ricompensare. Però la gloria è tutta vostra ora. Ne abbiamo parlato di Troll, noi non so. Sì, gloria, non so. Sì, vi mandava tanto. No, ci ha mandato Trombo, non so se ne abbiamo parlato. Sì, anche perché sennò non avrebbe. La dici? Sa che non l'abbiamo nominato Trombo. Ma magari voi avete una nave con voi che ci potete dare. Una nave anche requisita. Una nave che avete rubato. Boh, potrei quasi flippare. No, di navi ne hanno. Anche lì nella distesa della spiaggia sono venuti una decina di navi. Ci servirebbe una nave di cortesia. Scusate, ci sono delle navi di questi buffoni che abbiamo appena conquistato? Infatti è quello che gli prendiamo. No, i Miwoki no, ma quei buffoni tipo i ribelli. L'unica che l'aveva andata via, quanto capito. Però ma magari era un cazzo. Era un cazzo. Era un cazzo. No, in tutto il pianeta non c'è una cazzo di nave. No, dovete cercare. Cioè, voi avete preso un singolo vanposto, il pianeta è bello grande. Deve stare là, intanto che una settimana andiamo a prendere un altro vanposto. Il buono. No, vabbè, se potreste compensarci della fatica che abbiamo fatto. Per voi? No, possiamo anche dire comunque che la nave è danneggiata subito. Sì, abbiamo subito danni. Detto, lui ha detto, dovremmo lasciare la nostra nave a riparare, quindi avremo bisogno di un'altra nave che poi vi restitueremo col tempo. Certo, basta che paghiamo. Sì, penso che abbiamo già pagato. Come vi abbiamo aiutato a conquistare questo avamposto, possiamo aiutarvi anche a farvi sloggiare da questo avamposto. Cos'è c'è poteri? Porca puttana! Allora, diplomatico. Fai, scusa? Coercion. Okay. Yeah. Coercion. Eccolo, guarda che si è avvivato, piccolino! E ti puoi dividere coercion? Sì. Sì. Se coercion contro... Aspetta. Difficile. Cioè, praticamente lui sta parlando, cioè, nelle vostre religioni sarà... Dai. No. No? Difficoltà? Aspetta, che devo vedere. Qual è la caratteristica contro cui si tira? E non volevo prendere quello di Fener. Che ti fa? Classico potere da Jedi. Beh, posso dare anche Jedi. Io veramente non sono un Sith. Provetto. Se lo usi contro un Sith, che è lo strano. No, non posso fargli. Ah, quella roba lì gliela faccio dopo. Per tipo. La roba così gliela posso fare dopo, ma non. Cioè, dura tipo un minuto. Cosa? Non funziona così. Sì. No! Cosa? Cioè, sei un Jedi democristiano? No, non funziona così. Cioè, io posso uccidere i Sith? Sì, puoi ucciderli, ma non puoi usare i poteri Sith contro i Sith. Ma non è un potere Sith, è un potere della forza, che usualmente, che di solito lo prendono i Sith perché allora mi piace uccidere gli innocenti, ma posso prendere anche i Jedi. Ma non funziona così? Sì, non è cosa sta dicendo. No, è abbastanza. Se lo usi ti compromette abbastanza. È tipo la base di tutti i film. Questa sì, va bene, Vez, ma è come dire che Avada Kedavra lo usa solamente Voldemort. Ma non è che può farlo. Eh sì, lo usano solo i cazzi. Ma invece sì. Ho capito, però non è che gli altri non possono farlo. Gli altri non lo usano. Non lo usano. Ma non è che sono indicappati perché non lo sanno fare. Lo usano per motivi perché sono buoni. Sì, ma non lo usi. No, sì, perché non si deve. Sì, è come dire, anche tu fisicamente puoi uccidere adesso Vezzi, li prendi la testa e gliela sbatti forte contro il tavolo, ma non lo fai. Possiamo usare le armi chimiche, cioè. No, però sto dicendo, se volesse Yoda, potrebbe, se volesse strangolare Darth Vader o provarci. Ma lo sa, no. Secondo me. Sì, ma non lo farebbe mai, perché non lo farebbe perché lo ucciderebbe con la spada laser, cioè con un altro. No, ma perché un cazzo di film. Lo farebbe perché contrarre suoi principi. Vabbè, i Jedi e i Sith sono uccisi dal primo film, da sempre si ammazzano e combattono con la spada laser. Sì, ma ci sono tipo alcuni poteri che sono legati a sì, ma non è che uno, ok, ma non è che uno non li può usare, cioè. Vabbè. È che sono legati al lato oscuro, ma non è che non li sanno fare. Non è poterli fare che non li usi, uno viola e uno rosso. Ma qua è il gioco in cui puoi usare quello che vuoi. Sì, però sei tipo è un viola potere. E uno rosso. Mm-hmm. È un potere che nei film vedi usare dal lato oscuro, non è un potere dal lato oscuro. Sì. No, non è questo che è il problema, è un potere dal lato oscuro. No, non è successo. Che è una cosa Jedi. Vai, vediamo. Tre successi. Tre successi. Ok. E alzo il sopracciglio sotto la maschera. Prova di coercion. Cosa gli hai chiesto esattamente? No, gli ho detto che come li abbiamo messi al potere, li possiamo togliere dal potere. E quindi se ci ringraziassero sarebbe meglio. Mm-hmm. Così. No, vabbè, adesso si caga un po' sotto. Tre successi. Appena preso la spiaggia, vai sgomberato. Okay, puoi infliggergli degli strain se vuoi. Sì, però dice fottiti lo stesso. Vabbè, c'è anche l'alternativa che tiro fuori la spada laser e lo sciotto lì. Cioè, sì, ne sono sicuramente consapevole che voi abbiate questa capacità. Ma non vedo perché dovreste farlo dopo che ci avete... Cioè, noi al massimo... Cosa vuoi ottenere, amico? La tua faccia! Non la vedi, è troppo piccola. Falla, avvicinati allo schermo. Guarda, diventa più grande. Torna in versione umana. Conta che comunque avete tipo una cinquantina o più di Trandoshan attorno. Cioè lui... Sì, ma lui è tipo a questa distanza da me, quindi se io ora faccio così lo sciotto. Se non sbaglio, Giulio... Se non sbaglio, lui, infatti, lui sa che potete farlo, però ti dice anche cioè, cosa volete esattamente. Lui, in questo momento lui è tipo a un metro da me, e se a me girano i 5 minuti lui muore, e lui lo sa. Sì, sì, no. Quindi è inutile che faccia il figo. Ma non ha fatto il figo, hai chiesto cosa volete. Quindi. Ma aspetta, Giulio, loro sono 50, hai detto, no? 50-60. Ok, esatto. Per ognuno che uccidiamo è un punto esperienza. No. No, sono due punti così, esperienza. Però, no. Quindi ogni quanti c'è un punto esperienza? Non c'è una corrispondenza. Ok, ma se li uccidiamo tutti e 50, quanti succede che Tronvi dalla caccia vi distrugge. Ah, perché abbiamo ucciso dei poveri lupi. Sì, no, ma a me non interessa dei suoi uomini. Io so che però lui adesso, se risponde male, muore. Quindi deve stare molto attento a quello che dice. Cosa volete esattamente? Vogliamo una nave, te l'abbiamo detto. Una nave o dei crediti? Noi vi abbiamo detto, io vi ho detto, non c'è problema, basta che paghiate. Possiamo farvi uno sconto. Ma dovete pagare, non in... Ok, cioè, forse mi sono espresso. Va bene, vi ringraziamo, ma non avete fatto l'efficienza. Non è un problema. Non avevate un accordo con noi. Non è un problema. No, schisch, hai tutto ragione. Hai tutta ragione. L'unica cosa, noi questo lo faremo presente a Tron. Non c'è nessun problema. Fatelo presente. Lo faremo presente. Ma Tron è sotto schisch. No, Tron se vuole lo incula con la sabbia, Schishk. Ma tra l'altro Schishk, ripeto, che ha un filino dalla morte, quindi è inutile che faccia il figo. No. Infatti ha detto che vi fa lo sconto, non c'è problema a darvi una nave, però non è gratis tutto, non ha no, senso. Ma noi la nave gliela poi gliela riporteremo anche, di fatto. Poi sì, cosa vuol dire? Sì, ma allora, aspetta. Allora come pensa di ricompensarci per questo? Non penso di compensarlo. Mi sa che gli conviene pensarlo in questo momento. Vedi che è un po' in difficoltà, sta prendendo tempo. Vedo la gocciolina di sudore da un rettile. Ma tu non hai il potere per fargli dire io vi do 3 navi e mezzo. Sì, lo so, ma dura un minuto, poi si incazza di brutto e dice uccideteli, non è bello. Ma in quel minuto noi prendiamo la nave e li salutiamo, scappiamo. Lo so, ma se loro ci insegnano calpestiamo tutti i loro cascini partendo se uno di loro sputa mentre la nave di catta decolla, la nave di catta esplode. Comunque torna pure a tutto schermo, Sal, se non devi fare altri tiri nell'immediato. Non so, potete prendere gli equipaggiamenti che ci sono nella torre, qualcuno portiamo ospitalità e eterna gratitudine su Trandoshan. Va bene. Va bene, mi piace l'eterna gratitudine. Cominciamo da adesso. Va bene. Esattamente, Salla, come funziona, aiutare, scusami, questa eterna gratitudine di cui sei contento? Che adesso devastiamo il posto e rubiamo tutto quello che possiamo e poi partiamo. Cominciamo qua a non avere l'eterna gratitudine. Sì. Ok. Cioè, tu la volevi dietro la gratitudine per poi annullarla di colpo. Vabbè, no, saccheggiamo il posto che noi abbiamo conquistato. Ah, non i Trandoshan, non volevi uccidere tutti quanti. No, me ne frega di Trandoshan. Adesso noi andiamo via, tra tipo un mese questi qua verranno ricacciati dagli Wookiee ribelli. Vi dice che potete prendere quello che trovate nella torre, se gli potete lasciare però le armi. Quale qualche torre? Arma e... va bene, però ti tengo d'occhio. Il problema è che lui ha gli occhi di... quindi... quanti conflitti ho preso per sta roba? No, non tanti, 3. Che in realtà questa... allora lo ammazzo. Lei è 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vai, ruttiamo e... Va bene, allora ruttiamo e andiamo verso Tron. Cosa ho fatto? Sei cari. Vabbè, però non va. Cioè, ah, sono retroattivi. Ora che hai scoperto che la gente stava uscendo, sono retroattivi. Ne è andato solo uno. E cioè, anche tutto il discorso su, beh, ma ci sta, cioè alla fine loro, no, Yoda, se volesse, potrebbe uccidere tutti gli innocenti. Non è che non lo sa fare. Sì, 10 colpi tempi. Non ne hai preso uno, sta tranquillo. Vabbè, è ancora in 9 per ora, tu sai. Vabbè, andiamo, prendiamo due o tre robe che troviamo nel loot. E cosa poi troviamo? Te ne ho dati un po' perché eri molto compiaciuto del tuo massacro. Quindi... Cosa troviamo? Condivido. Segnate voi, io non ho bisogno di sta roba, l'ho fatto solo per diletto. Sì, infatti non dica, non che cazzo ce ne frega, non rubiamo la nave, cioè dalla merda ci stanno. Boh, vabbè, qualcosa, scarpe, qualcosa, dei cellulari. Capito, rega, noi siamo sempre ho capito, o lo ammazzo oppure che cosa ci posso guadagnare. Ce la rivenderemo, in qualche modo andremo su un pianeta e ci rivenderemo un po' di soldi. Li rivendiamo allora. Il nostro equipaggiamento con lo sconto del 13% Steampack come se piovesse. Non lo so, chi ce l'ha? Non è vero. Ce l'hanno queste cose. Io ho preso molte foglietti che non sono più. Cerca un po' perché altrimenti tutti i nostri soldi che abbiamo. Ma trovate, diciamo, 10 Steampack. È un problema. Lo segnale qua dietro. Vabbè, segnateveli sulle schede. 10 siamo. They coming? Giulio? Due a testa. Allora, questo è un... Giulio e Gai sono due, o ci dai roba utile o ci dici il valore in crediti. Giulio. Non vuoi che abbiano in quella base? Qualche arma generica? Ma come cosa vuoi che abbiano? Provate... Capito, avranno dei cazzo di... Scusa, i lanciarazzi con cui ci hanno sparato? Non vanno, sono gli stessi, non sono compatibili. Scusa, l'antiaerea con cui ci hanno sparato da terra? Pollo alla Kirby. Cosa? Scusa? Io ricordo che uno stronzo ha sparato un missile alla nostra nave da terra. Ma sì? Boh. No, forse era un'altra volta. Beh, potrebbero comunque avercele quelle robe. No, ho capito, ma cosa avranno? Non è che avevano un arsenale per una guerra. No, aspetta, qua c'è qualcosa. Comunque le balestre Wookie valgono un bel. Ah, no, questo è un balistico. Eccola. Qua. Hai sistemato il portamine, ragazzi? Trovate tre vibro ash. Sembra che vada. Wow. Comunque la cassa 64.000 abbiamo in cassa. Segna, catta. Tre vibro ash. No, aspetta, di là. Non c'è spazio. Non c'è spazio. Cosa quindi? Due steampack a testa? Sì. Una quarantina di fucili laser. Vai, questi sono tutti i soldi. E roba invece computer. Cioè, cosa servono gli stintori? Sì, ma sono integrati. No? Che ce li dà noi quando crepiamo. Mi ho chiesto di lasciarli. Mezzi di trasporto terracqui. Non credo che riusciamo a trasportarli. No, vabbè, li lasciamo lì e li rivendiamo. Ce li vendiamo ai Trandoshan. Tipo di cose, come si chiamano? No, scusa, le balestre e buchi. No, prendete una ventina di granate frammentazione. Capito. Qualche droide? Sti maiali. No, i droidi sono al servizio della base. Sono dei detonatori termici. La base è nostra. No, la base non è vostra, potete prendere alcune cose. Beh, facci prendere qualche droide. Detonatori. Allora, voglio anche 5 uova di Trandoshan. Io. Sì. Ci prendiamo un droide, scusa, che problemi c'è? Ne avete già due. Appunto, uno lo rivendiamo. Cioè, nel senso, gli ha bisogno di roba che abbia un valore. No, ce ne sono pochi. Quelli che pochi servono funzionano nella base. Hanno una cassaforte con delle robe di valore da qualche parte. Sì, erano tutte nei lanciarazzi che Arci ha schiantato. No, cioè è una base in mezzo. Vabbè, tipo quelli della ribellione, non so. Le cose importanti dove le tenevano? Aggiungo solo gli steampack che non importanti. Non so, documenti, robe di valore, di intelligence. Troviamo anche della polvere, quindi da incassare. No, molte cose abbiamo distrutto. Boh, una decina di balestre. Non oh, bravo, le balestre valgono. O se no, Salla, prendiamo direttamente una torretta, una contraerea, e la portiamo sulla nave di carta. Il coso, com'è che si chiama? La mitragliatrice pesante. MG42. Vabbè. Degli speeder, robe così non ci sono. No, gli speeder, non si chiama. Ci saranno però delle apparecchiature tipiche di una base. Cioè questo è quello che prendete. Sì. Va bene. Che potete prendere. No, no, lo prendiamo. No, chiaro. Vabbè. Niente, ci andiamo da questi ingrati. Vabbè, portiamo la nave a riparare e prendiamo il mezzo di cortesia. Io in realtà... andiamo da Tron. Chiederemo a Tron il mezzo di cortesia. Ah. Loro non ce lo danno, cazzo. Ma in realtà io sono contento solo perché gli ho fatto brutto. A me, loro ce lo fanno pagare. Che ve lo danno. Ce lo danno. Ah, pensate che Tron lo danno. Tra l'altro... Vabbè, ma Tron ci è un minimo, cioè, grato, se no cambiamo. Ci farà un prezzo. Io ma prima. Cioè, speriamo che ci diano. Però, quello che speravo io è che Tron ci faccia un buon prezzo a riparare e basta. Ma magari ci presta qualcosa. Cioè. Ma chi se ne frega, tanto abbiamo una settimana. Vabbè. Cioè, andiamo. Parcheggiamo lì una settimana, ci facciamo delle gran seghe. Amici della... Adesso cosa fate? Andiamo verso Tron. Noi, voi invece vi andate dall'altra parte. Sì, noi andiamo con Ciccio e ci vediamo là. Invece noi... Voi vado a interromperla qua, volete andare avanti ancora per molto? No, possiamo. No, se volete un attimo facciamo l'incontro con Tron. Bastanti non ci sono. Che volete? Cioè, se tu vuoi andare, cioè voi come Jedi che andate, avete finito. Sì, siamo moralità, Arci. Vai. È inutile che lo fai con quel tono da 6 più 5. Cazzo, minchia, essere cattivo. Cos'è, un da 10? Sì, spero che faccia 10. Hai fatto 10? Serio? Guarda. No, ritira che io non vedo così, devo vedere io. No, aspetta, c'è l'applicazione. Sì, non lo vedo. Condivisa. No, adesso non si vede. Mettilo a schermo. È a schermo. Non lo è. Allora reset. Bravo. No, faccelo vedere, no, ho fatto 10, tieni 10. Ma io l'ho fatto, aspetta, adesso ci riprovo. Condividi schermo. Si vede adesso? No, si vede te. Ma non è vero che ho rifatto 10. Infatti io... Faccelo vedere, cazzo. È bagnata sta merda. Sì, okay. È il destino, Salla, più segna. Dai. Mi prestate sulla nave prima di partire, a un certo punto che Zarkar scuota un attimo la testa. E sento una gran risata mia. No, no, comunque l'applicazione fa schifo. Ho fatto 2 volte 10. Però adesso ho fatto 3. Comunque non si vedeva a schermo. E adesso? No. Vabbè, comunque dai. Stesso, la prossima volta potrai prendere tantissimi punti lato scuro. Ma scusa, quindi è più 1 questo? Sì. Jedi. No, vabbè. In realtà sono a 52. Quindi. Niente di eccezionale. Leggermente. Jedi. No, Jedi. La prossima volta può prenderne così tanti e forse può scendere subito sotto 20. Bello. Anche Arci, però. Sì, ma comunque 2 volte 10. Allora, io vorrei dire a chi ha programmato sta merda. No, vabbè, Arci deve prendere 50, no? 50. Sì, no, per scendere sotto 20, sì. Comunque Arci, non ha fatto niente di buono da quando gioca ed è 10. Tipo un super Sith. Come io l'altra volta... Non hai fatto niente. Io l'altra volta gli ho dato 10 conflitti e lui ha fatto 10. Va bene, giocate sta roba così dopo io chiudo la registrazione. Vai. Le mie uccisioni sono involontarie, cioè io ho spostato una porta, se poi dietro la porta c'era della gente che aspettava di morire, non è colpa mia. Ma ti giuro, Vez, il racconto era straziante, cioè ha praticamente sfondato una base militare con anche civili dentro, tipo tecnici, gente così, la bucata, e non ha distrutto solo quella, ma ha distrutto anche quella con cui ha distrutto la base, quindi due basi con dentro, hai capito, tecnici, che piangeva, infatti. Padre di famiglia, cioè è stato tristissimo. Cioè, ha avuto dei momenti in cui era buono, dei momenti in cui era cattivo, eccetera. Tu, cioè, non ti sei mai espresso, sembravi buono, tipo, andiamo lì, uccidiamo di tutti. Sì, beh, vabbè, facciamo. Non lo sto facendo apposta. È un po' essere un paladino in compagnia di calci malvagia, non è che poi per forza. Io sto muovendo questo masso contro tutta questa gente innocente, ma non lo sto facendo. No, ma ti giuro, ha preso una base piena di gente, tipo padri di famiglia, donne. Ha preso una torre, una delle torri che gli sparavano, donne, bambini, e l'ha lanciata contro la porta dell'angia. Cioè, tu hai presente quanti piccoli di Wookiee non avranno più il genitore che torna a casa? Cioè, è una storia tristissima. Ah. E poi cosa ha fatto? Le altre due le ha prese e le ha fatte schiantare tra di loro, tipo. Sì. Cioè, ha ammazzato tipo qualche centinaio di persone. Vabbè, dai, facciamo... No, centinaio no, però decine, svariate decine, sì. Facciamoci sto colloquio con Tron. Mm-hmm. Ok, voi avete il... pass. Il comunicatore col codice stallato. Sì. Tron, mio signore. Ah, capitano, di qualcosa. Lui, aspetta, lo raggiungete dove? Ah, Tron face. Place. Space. Grace. Una mappa, ragazzi. Tron, non fotterci anche tu. Abbiamo un reclamo di un certo schisch. Ah no, però prima di dividerci, cosa volete che gli diciamo noi a Tron? Che non ci sono paragoni. Vabbè, diciamo che più o meno dove l'avete lasciato. Ci vediamo prossimamente. Saluto la diretta. Ciao Arci, salutiamo Arci. Ma che se ne va, ha uno spazzolino da denti in bocca. Ah, fa così vedere queste cose che si tiene in bocca, cose di punto. Sì, è explicit. Ci vediamo. Chi c'è domani è venerdì. Domani è venerdì. Ah, ricordo, se vi interessa, che il pale eventualmente c'è. Quindi, amici del podcast, domani, se volete andare in palestra da Arci, vi raccomando, portatevi un quadernino per segnare i vostri miglioramenti, un asciugamano e tanta voglia di spingere e di darci dentro e di togliere la vostra secchitudine da ogni fottuto muscolo del vostro corpo. Ciao Arci. Ciao. Ciao Arci. Ciao Sallino. Ciao. Ciao. Ciao. Va bene. Bene. Noi che siamo ancora qua. Siamo sempre qua. Siamo qua. Bene. Siamo la Babbo Nosor. Missione compiuta. No, fermo un attimo. E Zon, scusa, Katta. Cosa diciamo? Zon, cosa vuoi che diciamo a Tron? Esattamente. Di lavarsi i denti. Va bene, gli diciamo che dovete andare con uno Jedi. No, secondo me, no. Io gli direi semplicemente che... Ma devo esserci anch'io per trattare con sta merda. No, voi andate con lui, per questo dobbiamo chiedere cosa gli diciamo. Cioè, ciao. Cosa gli possiamo dire? No, io non gli direi un cazzo, gli proporrei solo di uno sconto per la riparazione e poi tra una settimana vi levate dai coglioni. Ok. Oppure, se lui ha qualcos'altro, perché lui già la prima volta... Noi ci inventeremo qualcosa, per cui se vuoi che non ci inventiamo qualcosa, ma che gli racconti qualcosa specifico, cosa dovete dire? No, lui già la prima volta aveva detto andate per la vostra strada. Sì. Ok, lui è nei pressi di Alderaan, cioè di dove c'era? Cioè, è esploso. Era super cazzola. Ci vediamo su Alderaan. C'è un posto bellissimo lì. Tanti posti dove riparare le navi gratis. Va bene. Ci sarà un po' di navi. Qui là non è Babbo Donosor, missione compiuta. In effetti... Quale missione? Dovete vedere quanto potete raggiungere. Chi? Aggiungerlo tra gli amici di Facebook, Tron, dici? No, aggiungerlo fisicamente. Ah, devi fare le prove. Astrogation. Serviva Sceo, bastardo. No, vabbè, lo fare anche. Vai. Quanto è? Che no, prova, prova, così. Quando si aiuta, no, sì, solo se, se è qualificato. No, se, se, se non è qualificato, allora, è un boost, l'astronave però. È pesantemente danneggiata, sì. Quindi due. No, il navi computer c'è. Calcoli veloci, no. Fate calcoli veloci? No, no. Okay. Vabbè, diciamo che il vostro computer è aggiornato. Cioè, siamo veloci a fare i calcoli, ma quella è un'altra cosa. Saranno mettersi qui giù. Okay. Sarebbe così sconvenuto. Tre. Qualcuno mi dà un boost? Io sì. Bene, facciamo. Non qualificato. Secondo me è di là. Grande catta, ce la fa. Si spera. Due successi è un vantaggio. Okay. Due successi è un vantaggio per fare questa strada qua, che va da qui, che la Kashyyyk all'Alexander, quindi tra regioni, perché Alderaan era... così lo metto io la prossima volta. Alderaan era nel core. Reconis, Min, Kashyyyk nell'outer, 1.4 regioni, e quindi sono dai 3 giorni alla settimana per regione. Vabbè, facciamo, tirami un di 20, vediamo. Non c'è bene, la sparo io. Cioè, arrivate che è già ora di andare via. Sì. Un giorno. Vabbè, un giorno non è possibile. 5 giorni. Vabbè. Arriviamo lì. Ok. Cioè sono una consulenza flotta. Ok, qui era una babbolona, chiediamo il permesso di atterrare. Ah sì, dai, mi arrivo. Sì, atterrate sul pianeta. Quale pianeta? E inviate i codici. Inviamo i codici. Ok, potete atterrare la nave madre. Aspetta, abbiamo anche uno sconto. Codice sconto. Hashkishk hashtag 1. Atterrate nella nave, nella miraia, nave nei hangar fuori che aspettano tante truppe, le solite cose dell'impero. E c'è anche Tron che è un po' lontano. Okay. Come mai di ritorno fa mentre si avvicina lentamente? Missione compiuta, ammiraglio. Abbiamo stabilito una testa di ponte su Kashyyyk. Purtroppo però abbiamo riportato ingenti danni alle nostre navi. Chiediamo... Sì, diciamo che i Trandoshan se la sono presi con. E chiediamo se nella sua immensa gratitudine ci può dare una mano con le riparazioni. La mia immensa gratitudine era già stata immensa prima che voi partiste. Avremmo bisogno gratis. Ma anche lei, come ha detto, è sorpreso di vederci già di ritorno. Esatto. Sì, perché non vi aspettavo. Anzi, non vi volevo, però va bene. L'ultima volta era tutto. No, no, in realtà lui ci ama, ma quando stiamo tipo dove c'è gente che gli sta sul cazzo. A lui serve che possa fare un giro per la galassia, non che lo dobbiamo già. Lui ci ama quando noi ci leviamo dalle palle. Avremo bisogno di una mano. Immagino che vogliate che le nostre fabbriche riparino quella. Se ci può aiutare in questo senso, saremo estremamente grati e potremo continuare a fare quello che lei preferisce, dove preferisce. Chiaro. Ci sono dei costi, non riparo le navi gratis, soprattutto visto che l'impero non esiste più. Ma anche se fosse esistito, probabilmente non sarebbe stato gratis. Allora, gli chiediamo solo, insomma, di venirci un po' incontro, diciamo, che per un buon 50% sul prezzo. Sì, fammi avere lo shotta diretto. Farò sapere il preventivo. Va bene, fammi sto preventivo. 50% lo shotta. Se nel frattempo possiamo utilizzare una nave di cortesia, così. Quanti danni ha il caccia? Il caccia, vuoi sapere? Non volete far riparare anche il caccia? Sì, caccia. Che ci riesce. Vediamo cosa ci possiamo permettere. Dobbiamo smettere di a 10 danni su 12 posti di poveracci. Ho segnato due che sono quelli che ancora in realtà è 10. Io chiedo al capitano, visto che è un esperto contrabbandiere, se è più conveniente secondo lui provare a vendere alcune delle cose che abbiamo. Quali trovato sono i danni critici? Aspetta, fammi un attimo dire quali sono i danni critici. Sì, di tutto. Il critico era quello che aveva disattivato gli scudi. 96%. Sì, è quello alla... Il caccia, 96%. E quello alla nave era quello che aveva prima di... Sì, cosa? Il motore. Ah, no, il motore è il caccia. Sì, il motore è il caccia. Ed era il 96%. Quindi grosso. Intanto io chiedo, cioè, vabbè, ok, magari l'ho fatto prima. Voi avevate delle modifiche particolari alla nave? Quella grossa, sì. Avevamo aumentato la guerra. No, motore no. Ho preso delle armi e il sistema, credo quello la di. Ce l'ho, ce l'hai nella qui. No, abbiamo il guided quality. Sì, a parte abbiamo un sacco di robe che secondo me Shio non ha assolutamente usato. Ma vediamo. Beh, in teoria quella per la presenza delle navi è quella che ha usato per spottare il caccia nemico. No, comunque, secondo te, capitano, è meglio, vista la tua grande esperienza da contrabbandiere nel corso degli anni, un po' in tutta la galassia. Sì, ma lo direi sottovoce, soprattutto in presenza di Tron. Beh, tanto Tron sa di tutto di noi. Ma comunque te l'ho chiesto prima, magari questa cosa. Perché, tanto Tron vuole solo che ti levi dai coglioni. Quindi, vabbè, in privato glielo chiedo. Ma quando ho trovato i contrabbandieri con cui eravamo, ti ricordi, ammazzati subito. Secondo te, capitano, è più conveniente provare magari a vendere a loro molte delle armi, magari facendole scalare sul prezzo, oppure è meglio trovare un mercato nero per farci più soldi? Conoscendo gli imperiali, se non è roba loro. Non gli serve, dici. Cioè, e soprattutto se fosse roba loro ci direbbero dove l'hanno dove l'avete presa, ridate. Ah, ottima osservazione. Se non è al parolo, dicono cazzo, ce ne facciamo di sta roba. Sì, ci sta, mi piace. Che idioti. Io sono andato su Zio'st. Bella Zio'st. Bello zio. E vi sto aspettando già da due giorni. Diciamo che caccia in nave 30.000, perché siete voi. Grazie. In quanto tempo? Neanche tanto. Beh, se ci danno una nave di cortesia, vediamo. Ma che? Lui non ci vuole vedere, quindi prima possibile. Magari c'è qualche nave catturata. I danni sono ingenti, almeno una settimana. Ah, va bene. Beh. Cosa vogliamo fare? Proviamo a chiedergli se ci dà una nave per toglierci dalle palle, così lui non c'è in mezzo ai piedi. Come preferisci? O aspettiamo qua? Sì, in realtà. Proviamo a chiedergli, magari se Ve la potete prendere con più comodo. Solo che intanto... poi se danneggiamo quell'altra nave. Cioè, chiediamo se magari hanno una nave. Gli daremo una caparra, come si dice, quella che. Gli lasciate due navi per una nave. Quindi direi che. Però le due navi caparra... che lasciamo non fanno un Però gli dai i soldi. Sì, sì. Direi che l'assicurazione ce l'hanno, anzi. Comunque questa missione siamo andati pesantemente in perdita. No, io mi fido di voi. Ma sì, perché il pianeta dove siamo andati è di poveracci. Va bene, se ci potete dare una piccola nave per andarcene, intanto che la nave qua a riparare. Se avete qualche nave requisita che non vi serve. Potete prendere quella dei... Aspetta, la nave... di contrabbandiere un'altra volta. Sì, va bene, grazie. Non è ancora stata smantellata. No, che fortuna. No. Grazie, ammiraglio. Lei è davvero un grande ammiraglio. Basta che mi dia le palle. Un gran bel ammiraglio. Ok, sì. Ecco i soldi. Contate che la prossima volta il prezzo non sarà un prezzo di favore, ma sarà il prezzo... Beh, come di commercio. La prossima intanto volta. Lui è lì che sguazza su tutte le minchiate che facciamo. Esatto, stesso. Chi lo sa, in futuro c'è ignoto, magari la prossima magari, volta. Magari lo ammazziamo la prossima volta, tipo. In realtà lui c'è che sarà lei a doverci dei soldi. In realtà lui c'è qualche di brutto, secondo me. Sì, anche secondo me. Cioè, ha avuto sì, quello 30. Che voleva, quello che voleva, e poi sì, cioè, non ci aveva dato tantissimo. E di fatto lui non ha perdite. No, no, lui vi ha dato equipaggiamenti che costano sì. migliaia. Ah, sì, sì. Singolarmente. Però di fatto le... piano, tipo, a me tipo 5.000 faceva la mia roba. Sì, esatto. Più o meno 5.000 a testa, poi vabbè, meno quello che gli abbiamo ridato esatto. adesso. Di fatto lui non ha perdite. Vantaggio politico? Esatto. Beh, lui non ha perdite, ha solo guadagni. Lui è un genio. Pensiamoci dobbiamo essere lui. Lui di fatto è un genio veramente. Sì, sì, però come ho detto, magari la prossima volta lo ammazziamo. Lo magari sa. Poi, esatto. Più probabile. No, dobbiamo scegliere qualche missione più easy e più lucrosa. Esatto. Perché alla fine, cioè, sono tutti grossi, però se arrivi faccia a faccia lo one shotti, tipo prima shkishk, poi magari lui era... muori. Lui, cioè, lui moriva male, basta, probabilmente. Però, sai, vogliamo parlare si fa presto qua. Lo critti un paio di volte. Che... Lui gira sempre con le quattro guardie. Sì, sì, sì. L'ho critto un paio di volte. Donne, noi abbiamo fatto tutto quello. Voi non vi avvicinate mai a più di un metro da lui. Cioè, ok, tu hai il tuo potere, lo so. Adesso non è lì lui. E grande ammiraglio, noi abbiamo fatto tutto quello che lei desiderava e naturalmente non. Cioè, sono ovviamente affari suoi. Ti faccio però sapere. No, volevo solo però di farle sapere che ora la. Diciamo l'attacco su Kashyyyk è in mano appunto ai Trandoshan, a questo Shkishk che per sì, quanto abbiamo avuto dei capi clan. Sì, per quanto abbiamo avuto modo di conoscere non mi sembra uno molto competente, ecco, volevo semplicemente avvisarla di questo. Cioè, è un Trandoshan, come dire. No, però nel senso non mi è parso uno molto, diciamo, spigliato e con grande capacità militare, insomma. Anche lì abbiamo dovuto fare pressoché tutto noi e loro hanno già fatto molta fatica a fare quel poco che hanno fatto. Questo è solo per fargli sapere un po' la situazione. Per parlare un po' di merda. Poi, poi naturalmente la cosa noi non ci riguarda più, quindi non c'è problema. Insomma. È solo per riportarle sì, la situazione. Sì, ma conosco i Trandoshan, comunque grazie. Sono Prego. Dei buoni calciatori d'Italia, ma se non fa poco sì. Che altro diglielo, perché secondo dalla me mia esperienza non sono neanche così bravi come calciatori. No, infatti hai fatto bene a dirglielo, perché secondo me tra un mese gli Wookiee li cagano sopra di nuovo. E noi torneremo. Questo e... per dire che se avesse di nuovo bisogno di una mano più, diciamo, competente... Mm-hmm. Sì, insomma, fare un po' di casino e poi andarcene. Basta che non veniate sempre a chiedere di ripararvi le vostre navi. Cioè, potremmo evitare i combattimenti aerei. Le nostre risorse sono vaste, ma non così vaste. E devo. Vabbè, non mi interessa, non sono cose che vi riguardano. Noi le siamo comunque grati per il suo aiuto. Nel dubbio. Okay. Poi gli fai alla yak e gli fai tipo così. Cosa si gira? I miei uomini mi trasporteranno all'hangar dove c'è la nave dei contrabbandieri, che non è su questa, sull'ammiraglia. Ok, potete andare, direi. Grazie, grazie. Buona giornata spaziale. La messa con la spazzatura. Star Wars Day anche a lei, ammiraglio. Che la forza sia con te. Allora, aspetta. E arrivederci, grazie. Vabbè, con poche parole, venite scortati a uno shuttle che vi porta dall'ammiraglia a un altro incrociatore, a un'altra Star Destroyer più piccolo, dove c'è l'hangar, che probabilmente è quello in cui siete atterrati la volta scorsa. Sì. La nave, vabbè, poi dopo te la guarderai un po'. La nave è come segnata, no? No, quella era quella degli IAR. Sì, ce l'abbiamo da qualche parte, la Ojokara, che è quella degli IAR. Non era tipo uguale alla Barbadonna? Non si sa questa. Che era un'altra nave, sai? Vabbè. Però non so. Beh, poi Giulio poi se la... Boh, vabbè, non è importante. In questo momento no. Va bene, dai. Informiamo poi loro che abbiamo contrattato un prezzo. Ah, non possiamo fare adesso però, forse. No. No, vabbè, andremo nello spazio e gli diremo... ci ritroviamo con loro. Sì. Va bene. Vogliamo fare giusto un'investigation per Zios? Beh, in teoria è il... Ah, perché adesso non torniamo dove siamo partiti. No, Va bene. Basta. Va bene, qui. Chiudi. Sì, dai. Ok, va bene. Avete assistito al 23esimo episodio di Petrolieri Spaziali, Mayday. Evitiamo i... È stato un titolo perché le navi non sono andate bene. Evitiamo i prossimi combattimenti. L'idea dietro era quella, cioè io ce l'avevo già a priori, onestamente. Poi col fatto che. Sapevi che le navi sarebbero andate. Qualcuna, in realtà nessuna è andata giù, però no, qualcuna che fosse la terza volta. La tipa sarebbe comunque ben rischiata. Visto che è tipo la terza volta che ci inculano in un combattimento aereo, potremmo evitarli. No, no, più che ci inculano, in realtà no. Il problema è i danni, che sono tanti. Ma anche l'altra volta ci avevano stuprato. Sia l'altra volta che questa, sì. Qualcuno è rimasto tre turni fermo con la nave a non far niente. Il problema è che quando ti smazzolano la nave, sempre per le tasche, è sempre molto, diciamo, tossico. Vabbè, in realtà ci è andata anche abbastanza bene. Sì, però insomma, diciamo che alla fine non ci abbiamo veramente guadagnato da questa missione. Ecco, in realtà, abbiamo trovato Cornino. Beh. Io e per loro. Ocean di merda. Adesso andiamo infatti a fare loot sul pianeta. Ma lì non fai loot, sì. Lì fai expo. A proposito, non dirlo a Zaccaria. 10 expo. 10 expo. Io ci faccio un punto con 10. Va bene. E mentre noi scriviamo, vi diamo appuntamento alle prossime settimane, non sappiamo bene ancora quando, ma probabilmente torneremo con Abstracted Heroes e poi forse dopo anche con Petrolieri Spaziali, non so in realtà, ci metteremo d'accordo, vediamo. E grazie per averci seguito, continuate a seguirci sul podcast di RipGDR, sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e sul blog ripgdr.wordpress.com. Anche su Twitter, se volete, ci siamo come Tycoons & Dragons. C'è anche la pagina Facebook di RipGDR. E con questo detto, vi auguriamo ancora una volta un buon Star Wars Day a tutti i benpensanti della galassia mercificata. E niente. Ciao. Vuoi dire qualcosa, Capitano Amaro? Buonanotte e buone botte. Ecco, lo dici sempre. Ma basta, lo dicono tutti. Buona. Sì, esatto. Vuoi dire qualcos'altro, tipo, è una trappola! Quello lo dicono tutti. Vabbè, sei un cazzo di Mon Calamari. Va bene. Ciao a tutti.